ma non fa, è una, ma guarda che mia moglie non è mia moglie, non è mia moglie, è una signora che ha una sua testa, una sua politica e una sua esistenza. La Zanzara. Sei ancora a casa, Emo? Di ghiacciolo che in un tubo chiuso sta, io galip e tu ten grip, se per caso dico no, spatte piede, fai a cazzer, fino a che non te lo do, poi spremi il tubo e con le spavozzea, e mi da faccio tu che sangue crea, incominci dalla punta, poi tu mangia tutto quanto. Ma come cambia la sua vita adesso con Francesca? Beh, mi sento ben sostenuto, ha una forza d'animo incredibile, ha dei principi morali saldissimi, crede in quello che facciamo in maniera assoluta e quindi ha uno stimolo a impegnarsi per il mio paese, come sto facendo. Io sono qui, sono un vecchio signore che ha tante altre cose da fare molto più piacevoli che stare a prendersi tutte le mattine le giornalate contro. Compresa quella di passare qualche ora con la sua nuova fidanzata. È invidioso, eh? Certo. Va bene. Caro dottore, va bene. Il nuovo video diventato una sorta di culto assoluto di Francesca Pascale. E la musica è quella del calippo, caro Parenzo. Il calippo, hai capito? Una cosa stupenda, una cosa che può avvicinare elettori giovani al candidato presidente, no? D'altra parte l'ha detto Vittorio Sgarbi, una trovata elettorale di Berlusconi, quella di scoprire ufficialmente le carte e di presentarsi ufficialmente con una nuova fidanzata. Sgarbi che porta consenso, sì. Sgarbi che un po' ci insulta qua e là quando viene intervistato dalle radio, dalle altre radio, a Radio Yes per esempio. Cosa ha detto? Ho risposto quei due cretini che si erano dovuto anche contrastarli, cioè, siccome il loro tema fisso della loro mentalità, proprio i due piccoli pettegoli plebei, è che questo sia o questa ragazza, cosa che per me è non solo hai capito? No, piccoli va bene, pettegoli anche, ma plebei, caro Vittorio, ma come ti permetti? Intanto Berlusconi impazza ovunque, si voterà probabilmente il 24 di febbraio, dunque ha ottenuto una settimana in più, era una delle strategie, comunque una delle opzioni sul tappeto. Berlusconi voleva assolutamente ottenere una settimana in più di campagna elettorale, pare che l'abbia ottenuta anche per motivi tecnici, si dovrebbe votare il 24 di febbraio insomma sta impazzando in tutte le televisioni. Questa sera, anzi questo pomeriggio, a Pomeriggio 5, intervistato da Brachino, sempre Scedurzo, però non con la stessa modalità, intervistato da Brachino, dal signor Ma nella Brachino. nella stessa casa di Quinta Colonna? Sì, secondo me le interviste sono state fatte in contemporanea, cioè ho questo sospetto. Comunque. Sì, i temi non sono variati molto, le risposte. Poco diciamo. Importa, ecco. Poco importa. Ha detto una cosa, le mie televisioni non sono mai state contro la sinistra, al contrario di Benigni. Sentite. Le televisioni che fanno capo alla mia società non hanno mai fatto in tutti gli anni della loro esistenza una trasmissione, nemmeno di un'ora, politicamente orientata contro la sinistra. pensi invece cosa fa la televisione pubblica. Pensi alla televisione pubblica di ieri sera con Benigni 15 minuti contro il sottoscritto. No, sulla televisione possiamo dare davvero lezione a tutti di comportamento. Vabbè, si potrebbero citare numerosissimi casi qui però, Parenzo, eh? Si potrebbero citare numerosissimi casi in senso contrario. Bravo. Ma è Berlusconi che cita queste cose, non dovrebbe citare queste cose. Ha più valore se lo dice lei, visto che è considerato vicino a quell'area culturale. Bravo, mi vicino piace a quel... liberale, vero? Vicino a che cosa? Lei è considerato spesso, è considerato, ecco, è considerato, detto, bravo, è considerato. Ci conosciamo da troppi anni per poter gettare fango su una storia come la sua, quindi le voglio dire che lei spesso è considerato, non a buona ragione, vicino, contiguo a quell'area culturale là. Comunque tra poco c'è Epifani qui al mio fianco, ti voglio dire solo questo. Vabbè, sì, ma io non ho altro ospite, Epifani lo puoi anche... chiedergli semplicemente se si candida o no, è l'unica notizia importante. Siamo che può dare un convegno, sì, adesso glielo chiedo, ma dopo tranquillo, dopo tutto quello dopo. Che è a sua disposizione, ma hai fatto bene a puntualizzare, è considerato bene. Io torto, ho detto che è considerato a torto contiguo. Ma che contiguo sarà tua sorella, aspetta un attimo. Casini contiguo. Berlusconi è sorella che non hai. Casini Berlusconi è un problema di tutta l'umanità, addirittura signor Casini che poi l'ha detta una forte su Monti, perché la santità. Santificazione di Monti, un'altra delle cose che mi dà fastidio in questo momento. La santificazione di Monti. Sentirete fra poco Casini, il quale però dice che Berlusconi è un problema di tutta l'umanità, addirittura. Non è un problema solo dell'orridissimo Casini, è un problema di tutta l'umanità quasi. Naturalmente il populismo non c'è solo a destra, perché non a caso i toni... Era un po' piccato Casini dall'intervento di ieri di Berlusconi a Porta, quando ha definito Fini e Casini due persone orridissime. Faremo riascoltare dopo. Però c'è un Casini più interessante su Monti. Non si sente benissimo, però vale la pena. State attenti, attenti all'audio, però concentratevi. Tanti che si lamentano, vanno a pagare l'IMU, sono profondamente delusi di doverlo fare, ma nel loro intimo, quando spengono la luce, sanno che Monti è una scelta di serietà e che dall'altra parte ci sono le buffonate del passato o incognite. Hai capito? Cioè la gente quando spegne la luce ha pagato l'IMU, però quando spegne la luce e va a letto si rende conto che Monti è l'unica possibilità. Bah, adesso francamente io quando spengo la luce e vado a letto non è che proprio penso al signor Monti, cioè devo dire... Non voglio sapere a cosa pensa lei quando spegne la luce. Io voglio chiedere innanzitutto a Matteo Salvini, che è il capo della Lega in Lombardia, anzi, anche se la, come dire, formalmente non si dice così, se lui quando spegne il comodino, la luce sul comodino, pensa al signor Monti, ecco. Ma è nata la figlia poi di sì Salvini. è nata Matteo, buonasera. Effettivamente è da tre notti che non spengo la luce sul comodino, perché non c'è notte, non c'è giorno, però quando la spegnerò non penserò sicuramente a Mario Monti, e avendo pagato anche io l'IMU per 65 metri quadri a Milano, 500 sì. euro di seconda rata, e non sto in Piazza Duomo, se ci penso ne penso solo male. Dunque, vabbè, no, non è che stramaledici Monti, addirittura, ma dovrebbe sparire dalla faccia della terra come ha detto Bossi, oppure è una brutta espressione? No, beh, adesso sentivo prima Casini, adesso non è più tempo di passate, adesso che Berlusconi sia un problema per l'umanità mi sembra una cazzata grande come una casa. Monti secondo me è stata una sciagura, una iattura di cui pagheremo le conseguenze per diversi anni, però non auguro nessuno cose brutte. Una iattura di cui pagheremo le conseguenze nei prossimi anni. Ma deve sparire politicamente? Non sembra che voglia sparire, anzi, probabilmente tra sabato e domenica si candiderà. Non ne dubito, ma ad esempio in Lombardia, dove si vota per la regione, tutti i candidati sono per Monti, Albertini, Ambrosoli. Sì. Se Monti però passeggia sul lato sinistro di Corso Vercelli, io con tutto rispetto cambio marciapiede, perché ripeto, numeri della mano dal punto di vista della disoccupazione e delle pensioni ha fatto disastro. Ma cambiare marciapiede non significa nulla. Se lei lo vede di fronte, che cosa fa a Monti? Niente. Tira dritto. Cioè manco lo saluta, cioè no, la mano a Monti non gliela dà. Vabbè, se me la dà lui ci penso, io come primo non gliela do la mano. Cioè non vale nemmeno, cioè Monti non vale nemmeno una stretta di mano. Guardi, io passo almeno un'ora al giorno a rispondere mail di persone disperate per la riforma delle pensioni. Sì. E quindi io a un signore non eletto, sì, che pallottoliere alla mano ha messo in mutande centinaia di migliaia, sì, di pensionati o non pensionati, la mano non la do. Lo disprezzo, una volta lei lo scrisse, lo disprezzo. No, no. Vabbè, l'ha scritto su Twitter una volta, me lo ricordo. E allora se l'ho scritto, evidentemente. Mi avevano chiesto se odiavo Monti. Io avevo detto che l'odio. No, non lo disprezzo, perché l'odio. Troppo forte, però per. No, troppo nobile hai scritto. Troppo nobile. Può essere, può essere. Troppo nobile, però lo disprezzo. È vero che lo disprezzo. Disprezzo la sua arroganza e la supponenza con cui ha rifilato sacrifici senza nessuna equità. Beh, c'era scritto lo disprezzo, su un piccolo. Sì, sì. Sì, sì. Lo disprezzo, vabbè. Credo che lei è amico della mia pagina Facebook e questo le rende. Io sono. Le consulto tutte, ma come è noto, conosco Matteo Salvini da tanto tempo. 800 24 00 24. Parenzo, dove diavolo sei? Soprattutto Salvini, dove diavolo è che si sente male sul telefono? Ancora in ospedale? Ancora in ospedale? No. Io sono in camera da letto, visto che la bimba con 4 giorni di vita dorme in sala e vorrei che continuasse a dormire. A ma proposito, come si chiama la bambina? Eridania Libertà? No, Mirta mi sembra, no? Mirta Giulia. Ma come Mirta Merlino della 7, che ma che c'entra? Quella è con la Y, questa è con la Y. Sarà un omaggio a Mirta Merlino, forse. Ma no, assolutamente, non credo proprio. Non lo sappiamo. Ma c'ha qualche ha qualche cosa di padano addosso quando è nata? Gli avete messo qualcosa di padano? Che ne so, il ciuccio verde, le scarpettine verdi, che ne so, un fazzoletto. Il pannolino padano. E un cappellino verde in testa. Ce l'ha qualcosa di padano o no, sta bambina? No, adesso dorme con una tutina bianca e gialla. Comunque, quando sono venuti alcuni amici a trovarla dalle buzze di Milano, hanno portato il foulard dei giovani padani prontamente posto di fianco alla culla. Ah, cioè a fianco alla culla c'è un foulard dei giovani padani. Beh, gliel'ha pure messo, mi dica la verità. Un bavaglino, no, il bavaglino, no. Sì. Il bavaglino. Ho una foto sul telefonino che la mia compagna mi ha diffidato dal pubblicare su Facebook, e quindi io non ho. Ah, col coso padano, dici, col foulard pagano accanto. Però mi ricordo, era una festa della Lega, vendevano i bavaglini con qualcosa di sulla Padania, o sbaglio? Sì, sì, sì, le magliette degli. C'è un'associazione di bimbi, non di bimbi, evidentemente. Di genitori, di bimbi, visto che ci sono anche l'asilo nido nella sede della Lega, che si chiamano Orsetti Padani, ci sono le magliettine, i piccoli boy scout. Ma le farebbe piacere se diventasse quando sarà più grande una militante padana? Ma non la obbligherò certo a farlo, mi farebbe piacere. Scusi un attimo, ma ecco, a proposito, quando sarà maggiorenne, lei vorrebbe, all'epoca, dunque fra 18 anni, tanti anni, però lei Salvini è giovane, le farebbe piacere che vivesse in una Padania indipendente? Assolutamente sì. Cioè sogna il fatto che sua figlia, quando sarà maggiorenne, avrà il passaporto padano in realtà? Beh, il papà ha questa passione, oppure malattia, per qualche ascoltatore così la considererà, leghista da quando ha 17 anni, adesso ne ho 39, quindi il suo papà per 22 anni sta facendo militanza in un movimento che crede nel fatto che in Italia ci possano essere anche realtà diverse. Oggi è il ventennale della scomparsa del grande Gianni Brera, ad esempio, che fu colui che coniò il termine Padania. Non mi dica che Brera era un precursore della Padania indipendente, perché non è così, su. Mettendo etichette, se però vi leggete, lo consiglio come regalo di Natale, le storie dei Lombardi, che è successo? Parla di Padania, di Lombardia, come pochi altri. Ciao Erminia, che è successo? Che è successo? Aspetta un attimo, ti passo un attimo. Sì, ma chi c'è? Chi è? Pronto, buonasera, con chi parlo? Il mitico Cruciani? Sì, chi è? Sono Castelli. Castelli, ho incontrato un giovanotto ed ero su una parrucca perché. Ma scusi, onorevole, senatore Castelli, ma che ci fa lei accanto a Parenzo? Mi spieghi? No, è Parenzo che occupa i miei spazi, che qui è appostato fuori dal Senato. Ma che fa fuori dal Senato? Con una capigliatura che non capisco se è un tuperino. È una cosa vergognosa. Deve essere fatto uno shampoo senza. Senza fondo, non lo so. Vabbè, hai i capelli sporchi. Sta dicendo che hai i capelli un po' sporchi? No. No, non è bello a posto. Ah, non è a posto con... Adesso sta baciando con la capigliatura. Senta, ma lei è una persona molto importante. Sì, scusi, senatore Castelli. Rubelli. Senatore Castelli, mi scusi un attimo, ma lei vorrebbe di nuovo Bossi in Parlamento? Lei lo so che non ci andrà, mi sembra, ci conferma che non si ricandida, sì. Sì, io non mi ricandido, ma benissimo. Sicuramente Bossi, se vuol tornare, credo che ne abbia tutti i diritti. È giusto, è un padre storico. È giusto che sia nel prossimo Parlamento. Secondo me, se lui desidera starci, secondo me ha veramente tutto, ogni diritto di tornare. Dunque, da questo punto di vista non c'è rinnovamento nella Lega, ma si deve passare per, ci sarà la ricandidatura, no, di Bossi. Rinnovamento c'è, ma ci deve essere anche una continuità. Perché, ho capito, vabbè. Continuità nel rinnovamento, oppure rinnovamento nella continuità. Siamo qui, cari ascoltatori della Zanzara, con Matteo Salvini. No, aspetta tu, Matteo Salvini. Devi riconoscere questa voce, aspetta un attimo. Non mi fai fare ferma le domande. Ferma le rotative. Avanti, Salvini. Pronto? Sarà contentissimo. Chi è? Barbara Palombelli. Al fronte, già mi hai riconosciuto. No, lo sai perché ti ho riconosciuto? Perché in sottofondo, mentre parlava prima Parenzo con Castelli, Castelli ha detto la moglie di Rutelli. Magari lui vabbè, allora c'era l'indizio. Ti do un abbraccio fortissimo. Grandi giornate. Ciao, presto. Allora, Salvini, scusa, ma qui è Parenzo che combina casini inenarrabili. Magari sei contento, ovviamente. Io sono al vostro servizio e al servizio di chi ci ascolta. Allora, io ti voglio chiedere subito una cosa, riprendendo quello che chiedevo prima a Castelli. Secondo te, una Lega che si presenta in Parlamento, una Lega rinnovata, può avere Bossi ancora candidato? Però dimmi una cosa sincera, non mi dire deciderà il Consiglio federale. Sai che a me piacerebbe avere Bossi candidato in Regione Lombardia. Come? Che significa questo? Scusa. Candidato in Lombardia, ho capito. Sì. Beh, questo è buono, questo è buono. Cioè, candidato invece nella lista Lega, siccome... stiamo investendo le nostre energie migliori a partire da Roberto Maroni, non nel Parlamento nazionale dove si riesce a far poco, ma a livello regionale. Mi piacerebbe avere tanti giovani, ma anche qualcuno meno giovane in Regione Lombardia. Ma è una cosa di cui avete discusso, che è possibile? No, ti sto dicendo quello che penso io. Sì, vabbè, insomma, quello che pensi tu non è da un po' di tempo a questa parte non è del tutto irrilevante. No, non ne ho parlato né con lui né con nessun altro, noi non facciamo le primarie su internet, ma ci sono circa 600 sezioni che stanno esprimendo i loro candidati. Mi piacerebbe che fra questi ci fosse il fondatore, colui grazie al quale anch'io sono vostro ospite. Da Bossi figlio a Bossi padre, ci potrebbe essere questo handicap per Bossi? Anni luce, con tutto rispetto, anni luce di differenza. Questo va da sé. Dunque, meglio che in Parlamento sarebbe una scelta un po', come dire, no? Un po' di poco rinnovamento, sbaglio? No, ma non è il rinnovamento, non va tramite carta d'identità. Ma Maroni non è nuovo della politica, però per quello che ha fatto come ministro del lavoro e come ministro degli interni, penso che abbia la fiducia di tanti. Ecco, a proposito, Alfano ha appena detto, durante la presentazione del libro di Vespa, che sicuramente voi sarete, con Berlusconi candidato, alleati del PDL, insomma del centrodestra, alleati con il partito di Alfano. Vaneggia? Ha elementi a disposizione che non ho io, perché se un giorno il PDL ci insulta, il giorno dopo ci dà per alleati, poi ci rinsulta, poi ci dà per alleati ancora. Noi stiamo andando per la nostra strada, se qualcuno si vuole aggiungere è il benvenuto, però non siamo noi a cercare nessuno. Ad oggi la vedo difficile questo tipo di alleanza. Cioè, con Berlusconi, ribadiscilo chiaramente se lo pensi ovviamente, con Berlusconi mai? Con Berlusconi candidato mai? Posso ribadire, di definitivo c'è solo la morte. Però, tipo di trasmissione fa la Zanzara nei prossimi 2 mesi di campagna elettorale se il candidato premier fosse Berlusconi? Ci divertiremo come matti. Di cosa parlate? Di Berlusconi? Di sanità o della fidanzata di Berlusconi? Tanto parleremo comunque della fidanzata di Berlusconi, noi. Ecco, appunto, no. E quindi preferirei parlare di agricoltura e di sanità piuttosto che della fidanzata di Berlusconi, che ci fosse qualcun altro. A proposito, tu saresti contento se tua figlia, scusami se la metto in mezzo l'ultima volta, a 25 anni, a 26 anni, sta con una persona di 50 anni più grande? Non mi permetterei di intervenire, non mi farebbe piacere, immagino. Questa è sincera. Di fare quello che vuole. No, se vi alleate con Berlusconi, i vostri vi rincorrono coi forconi? La base della Lega ci ha già provato 1, 2, 3, 4 volte, poi... Vi rincorrono coi forconi, si può dire? Poi per carità, siamo gente concreta, eh. Ah, ecco, il governo della Lombardia merita qualunque sacrificio, ma questo sarebbe un sacrificione. Però merita qualunque sacrificio e di sicuro c'è solo la morte. La Lombardia significa 110 miliardi di euro di tasse pagate ogni anno, di cui ne tornano solo 30, e quindi le riforme le fai qua se vuoi, più che a Roma. Allora, un'ultima cosa riguarda le indagini sulle spese dei consiglieri della Lombardia. Si possono considerare, ovviamente se le cose verranno confermate, un po' straccioni e miserabili anche i vostri, che hanno speso magari per le cartucce, per un pranzo di nozze? Io li ho incontrati oggi tutti, per guardarci in faccia e chiedere uno per uno cosa hanno fatto e cosa pensano di fare. Chi ha speso, a me non interessano le dimensioni, perché un milione di euro vale 10 euro. Sì. Chi ha speso anche 10 euro in maniera scorretta, magari legalmente corretta, perché la cosa triste è che la legge permetteva di spendere come cavolo si voleva. Bisogna vedere, secondo i magistrati magari no. Al di là della legge, chi li ha spesi appunto per le cartucce, per i videogiochi, per le sigarette, per gli affari personali, ha fatto una cazzata. Non sarà ricandidato, si può dire? Si può dire che non sarà ricandidato? Cioè chi li ha spesi, anche se dice è stata la segretaria, perché Galli oggi ha detto mi sono sbagliato. No, non ci sono segretarie, la responsabilità, se Salvini fa una cazzata non è colpa della segretaria. Cioè Galli oggi ha detto, il vostro capogruppo, Galli, ha detto che si è sbagliato e ha restituito i soldi, però comunque resta una responsabilità, perché altrimenti non l'avrebbe restituito, certo, io sbaglio. Certo, per cui non si ricandideranno questi qua. Per quanto riguarda, chi ha sbagliato paga. E non si ricandiderà. Per quanto mi riguarda, chi ha speso dei soldi pubblici in maniera errata non si ricandida. Ma i DVD, benvenuti al Sud, alcuni hanno comprato dei DVD. Ma Salvini, com'è possibile questa storia? Ma con lo stipendio da consigliere regionale o da europarlamentare il DVD me lo compro per i fatti miei. A me piace andare a pescare, però la canna da pesca me la Ma scusi, ma non danno l'impressione di essere degli straccioni, dei miserabili questi qua? No. Attenzione, è gente che magari ha fatto il militante volontariamente, gratuitamente per 20 anni, quindi non ha bisogno dei 1.000 euro in più. Quando la legge è troppo interpretabile scappano le cazzate, quindi non esiste che uno si compri le bamboline o robe del genere col denaro pubblico. E ripeto, non so cosa faranno gli altri partiti, perché verranno fuori. Però voi che cosa farete? Noi chiediamo la restituzione dei soldi con gli interessi. Ma anche quelle delle cene? Anche quelle delle cene elettorali, no? Beh, se uno va a cena con il sindaco è pienamente corretto, se uno va a cena a Santa Margherita Ligure per i fatti suoi non ha a che fare con Regione Lombardia. Però non si può mettere in mezzo la segretaria oppure dire che... la restituzione dei soldi se di Galli... Se uno fa politica ed è pagato 1.000, 5.000 o 10.000 euro agli onori e gli oneri del fare politica, quindi siccome... abbiamo scelto di candidare Roberto Maroni, che è l'emblema di questa pulizia presidente, le liste devono essere assolutamente pulite. Parenzo, ci sei ancora? Ma certo che ci sono. Che ne so, pensavo ti fossi nascosto con la Palombelli, per carità, a parlare, dicevo. No, adesso ad esempio posso anche raccontarti la storia di Ali, che è questo migrante che è qui davanti a me, che vende ombrelli. Migrante di Ali, dai, su, smettila. Ma storia, scusi, lei a Roma, lei a Roma candidato o no? Aria mefitica a Roma, eh? Io? Eh, ma penso di star facendo discretamente il mio lavoro a Bruxelles e mi piacerebbe continuare a farlo a Bruxelles. Vabbè, Parenzo, ci sentiamo dopo. Ciao, arrivederci Salvini, a presto. Ciao a tutti. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me. Cornuto! E cerca il posto. ...500 consiglieri, 3 hanno fatto casino, e fanno casino perché sono al secondo mandato, e dato che al secondo mandato hai finito la tua carriera nel movimento, creano un po' di pubblicità, gli ho fatto un piacere, gli ho fatto un piacere, ma forse fuori dalle balle avrò esagerato. Forse avrò esagerato, però mi dà fastidio che usino il mio nome, sentiamo. Non voglio che usino più il mio nome e il mio simbolo, perché quando vai in televisione a dire certe cose su di me e su Casaleggio mi danno fastidio, vai in un altro partito. Cosa c'è da contestare? Mamma mia. Togliere l'IMU sulla prima casa, come Berlusconi. Che patetico. L'IMU, cioè noi stiamo adesso facendo una proposta che sarà poi votata sul programma, sul portale, di togliere la tassa sulla prima casa. La casa diventa impignorabile, come un rene. La casa è un bene primario, magari si tassa di più la seconda, la terza. con il blog Bivacchiamo. Casaleggio è una società con dei clienti, ne ha persi metà. Allora, lui ci mette del suo, io ci metto del mio. Nessuno vivacchiamo col blog, ma proprio non so se ci paghiamo le spese. Altro, dice Grillo, che guadagni, che questioni economiche dietro l'espulsione delle persone. Ma tu che ne sai, scusa? Sei diventato, sei talmente militante del Partito Democratico che fai campagna contro Grillo di continuo. Cioè, ma non dire, io non invece dire che cose. Me ne fotto del Partito Democratico, del PDL, di Berlusconi e di Bersani, ho la mente libera per criticare. L'audio, che sento un ritorno della mia voce, non so. No, perché. Metti a posto il tuo collegamento, non l'audio noi, abbi pazienza. Io sono in mezzo a quello che gli americani o gli inglesi chiamano il traffic jam, cioè una marmellata di traffico. No, tu sei dove, non dove, tu sei dove non dovresti stare innanzitutto, primo. No, ero prima a fare questo scoop con la Palombelli. Titoli del TG3, ma quale scoop? Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Napolitano sul voto, nessuna forzatura, ma elezioni in tempi brevi sono nell'interesse del paese. La data più idonea è il 24 febbraio. Il PDL prova a rallentare l'iter della legge di stabilità al Senato, manovre indecorose, dice Bersani, pronti anche a sedute notturne. Le manovre al centro, vertice da Monti a Palazzo Chigi, Casini, la decisione presa, Riccardi, sabato e domenica il professore parlerà del suo programma. Censimento Istat, in Italia siamo 60 milioni, ma grazie agli stranieri, triplicati in 10 anni, ci sono più donne che uomini e molte centenarie. Quattro banche straniere condannate per truffa aggravata al Comune di Milano stipularono contratti derivati nascondendo i rischi dell'operazione. Uno stupro di gruppo contro una ragazza su un autobus di Nuova Delhi scuote tutta l'India. Donne in piazza per dire basta e chiedere giustizia. Cresce in Puglia, Basilicata e Calabria la protesta contro nuove trivellazioni nel Mar Ionio. I comuni della costa si schierano per difendere ambiente e salute. Sentite, a proposito di Lega 2.0, a proposito di Lega 2.0, sentite questo signor Torazzi, che una volta fu ospite anche della Zanzara, te lo ricordi Torazzi della Lega? Come no, come no. Signor Torazzi, credo che fu quello che disse che bisognava avere i magistrati del nord, padani. Se non sbaglio, i magistrati padani, perché gli altri, quelli del sud, portavano la camorra, l'andrangheta, la criminalità. E poi uno si lamenta se li prendi per il culo, capito? È stato quello anche di Vendola incinta, se non sbaglio. Esatto. Torazzi, Monti, Novello, Adolfo nel bunker di Berlino. Ce lo ha paragonato sostanzialmente ad Hitler. Signor Torazzi, va bene che ci sono quelli che fanno l'elogio acritico. Elogio acritico di Monti, parlando di agenda Monti, quando non esiste un'agenda Monti, eccetera, eccetera. Elogio acritico, però ci sono pure quelli che lo paragonano a Hitler, eh. Il vostro governo è partito parlando di trasparenza, regole, equità, rigore e sviluppo. Poi abbiamo rivisto il solito vecchio film. Tasse, ingiustizia, clientelismo, centralismo e sprechi. Tutti i dati dicono che la Repubblica sprofonda. Ma il Presidente del Consiglio, Novello Adolfo nel bunker di Berlino, insiste col dire che ha salvato l'Italia e che tutto è a posto. I conti sono a posto. Modello Adolfo nel bunker di Berlino. Vabbè, a parte Casini che dice i cittadini pagano l'IMU ma quando spengono la luce vogliono Monti, ma lasciamo perdere, ma lasciamo perdere. Abbiamo Berlusconi che dice che tutto dipende da quanto sto in TV. Cioè, ancora una volta questa litania, tutto dipende da quando sto in TV. È vero che da quando è tornato in campo ha preso 2-3 punti. Però non è che può dipendere tutto dalla televisione, però, tutto dalla televisione, su, dai. Ma se scende in campo quanti punti pensa di prendere? Ma io dentro di me penso, miro, dipende dalla quantità di ore televisive che potrò avere. È uno dei motivi che hanno portato poi alla, alla scelta ormai condivisa di votare il 24 febbraio, uno dei motivi che ha spinto il PDL ad allungare i tempi era proprio questo, consentire una settimana in più di televisione a Berlusconi fuori dalla par condicio. Senza pietà, questo è il rimedio per l'insetto assatanato. Oh, Galli della Lega, quello che ha restituito i soldi del matrimonio della figlia, con un annuncio su Facebook, questo diceva all'inizio, eh? Questo diceva il capogruppo della Lega, quello della segreteria telefonica 8, lo ricordate, no? non me ne frega niente, me ne sbatto. Io non so niente. Non sa niente? No. Forse non ha visto le agenzie? No, no, le ho viste, ma non ho ricevuto nessun avviso di garanzia io. Ah, però l'ha visto, insomma, è a conoscenza della notizia, insomma. Sì, ma chi se ne frega? In che senso? Qual è il problema? Ma io non ho ricevuto avviso di garanzia, di che cosa mi devo preoccupare? Nel caso dovesse riceverlo? E verrà denunciato immediatamente il PM. Non siete turbati da questa cosa? Io, no? Guardi, me ne sto sbattendo i coglioni. E infatti si è visto, tanto se ne è sbattuti i coglioni il signor Galli, che alla fine ha restituito i soldi perché c'è stato un errore. Dice che voleva denunziare anche il PM, c'è stato un errore degli scontrini. Ma come fai a sbagliarti? Cioè, si sposa tua figlia, no? Cioè, quando si sposerà tua figlia, Parenzo, o quando si sposerà mia figlia, non è, mettiamo che noi siamo, come dire, in un ente pubblico, no? In un ente pubblico. Mia figlia starà sempre con papà. Sì, ma lasciamo, solo a papà. Ma adesso non dire stupidaggini come al solito. Non è questo il punto. La metti subito, ecco, sul piano personale. Non fare proprio il moralista geloso con le proprie figlie. È una cosa patetica, ridicola. Comunque, quando si sposerà, no? Quando si sposerà. Sì. E tu magari sei in un ente. Non è che dici prendi lo scontrino. Cioè, no. Sai, ti fanno la fattura del ristorante, no? 6.000 euro, era una cosa di questo tipo. Come fai a sbagliarti e a darle alla segretaria per i rimborsi? Me lo spieghi? Ma come fai? Perché? Come fai materialmente? Dici, vabbè, c'è un mucchio di ricevute, dici, mi sbaglio. Poi la segretaria controlla ristorante, eccetera, e si fa restituire. Dice, è successo questo. Tu ci credi? Cioè, tu ci credi che sia sbagliato? No, è ovvio che non ci credo, ma è di un'arroganza, di una tracotanza quella risposta che lui ha dato, proprio dei io all'inizio. Sono io, no? E io me ne sbatto i coglioni e ci si arriva la visita di garanzia, denuncio il PM. Ma come denuncio il PM? La Minetti oggi a salita come al solito da cronisti della Regione Lombardia, dice a uno dei cronisti di una televisione locale, da quello che sembra, ma come, mi hai toccato una tetta? Beh. Tutte queste spese negli hotel, nello spa, cos'è? No, mi hai toccato un hotel? No, scusa. Toccami un'altra volta, poi ti tocco io, so cazzi, eh. Finesso 800 24. Sì, ma perché non mi avete messo il pezzettino in cui rispondeva a me? Vabbè, 800 24 00 24. Andiamo a sentire Mario dalla provincia di Macerata. Mario? Pronto? Dica. Buonasera, volevo fare un intervento riguardo a Porta di ieri sera. Sì. Vorrei sapere cosa ne pensate di Berlusconi economista, dato che voi lo portate sempre in giro come uomo, come politico. Berlusconi economista non mi risulta. Non mi risulta essere un grande esperto di economia. Ma chi? Berlusconi. Ma ieri, allora se vedete che ieri non avete sentito l'intervista a Porta, ha parlato un'ora e tre quarti. Sì, un'ora e tre quarti di economia, e gli intervistatori non hanno detto una parola. E questo che vuol dire? Porta a Porta lo vedo sempre. Sì, ma non è detto che se chi intervistava non ha detto una parola, significa che aveva ragione Berlusconi, eh? Non è mica detto, può darsi pure che non gli facevano le domande giuste. C'era quello dell'Unità che tutti i giorni fa il trafiletto con Berlusconi, un'occasione più. Ma non penso, non penso che non abbiano detto nulla. Comunque, Mario, guardi, la presunta, ma poi uno non è che se fa il premier deve essere per forza un economista o un esperto di economia, ci sono anche i consulenti. Vabbè, ma allora che vuole dire lei, Mario? Che praticamente Berlusconi, nonostante tutte le figuracce che ha fatto, che anch'io riconosco che ci ha sputtanato, come economista nessuno gli fa mai complimenti. Non ho capito perché. E te pareva? Cioè, meno male. Cioè, non mi stupisce questa cosa qua. Ma dovrebbero essere tutti economisti politici. Avere Mario, grazie. Okay. Luca da Bolzano, buonasera. Pronto, Luca? Scusi, ma stavo mangiando. Che sta mangiando? Stavo mangiando del pane Filadelfia e prosciutto. Sì. Una cosa molto semplice. No, ma che accostamento pessimo. Pane? Pane? Pane Filadelfia e prosciutto. Pane Filadelfia e prosciutto. Ma no, perché è pessimo? Giusto? Pane e salmone. Che pane? E Filadelfia. No, salmone per dicembre, per Natale. Ci si risparmia. Vabbè, allora? No, volevo fare un intervento su... Mi è venuto mentre ero in Germania. Un accostamento tra... Carla Bruni e Sarkozy, e nel nostro caso, nel nostro presidente Berlusconi e della Francesca, mi sembrava... Beh, sono casi un po' diversi, eh? Appunto, assolutamente sì, però nella similitudine... Ma qual è la similitudine? Scusi, la similitudine qual è? Innanzitutto noi stiamo parlando solamente, semplicemente della differenza di età. Qui non c'è la differenza di età, in quel caso è molto più contenuta, diciamo, no? Sì, è più contenuta. Comunque era un matrimonio elettorale, cioè un accoppiamento detto elettorale come strategia. Ma, almeno così non risulta... Così veniva venduto un paio d'anni fa. Sì, qualcuno ne ha parlato, però insomma le cose hanno dimostrato che non è così, cioè sono ancora insieme. No. I miei colleghi francesi, diciamo, si ridevano vabbè, allora... anni fa. Niente, volevo solo far vedere che l'immagine internazionale ne sta... Vabbè, Giorgio dalla provincia di Como, buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Dica. Ho levato... Allora, io volevo dire questo sulla Lega, no? Perché è dall'89 che vado avanti con questi discorsi. E sono nella Lega dall'89, sono tra i più votati, giusto per illuminarmi di immenso. Allora, la domanda che vi faccio è questa: perché nessuno, da Salvini a Maroni, non dà dei pezzenti a questi signori, dei miseri, dei meschini e direi anche altre parolacce? In quanto io, facendo professionista sul territorio, non ho bisogno né dell'euro 73 né del 500 euro da scaricare o da pagare le cene con i soldi a Regione Lombardia, perché se io faccio come feci ai tempi dell'elezione del sindaco precedente, ho occupato la piazza, ho fatto una festa, ho pagato di tasca mia, no? E allora dico, lo schifo, perché non si dà dei pezzenti a sti signori? Che Maroni e Salvini abbiano il coraggio di dirlo tutti i giorni, perché tanto tutti i giorni ne salta fuori uno di stronzi e di pezzenti. Vabbè, e non gli danno dei pezzenti e degli stronzi, magari semplicemente li mandano via o non li ricandidano. Ma subito, mi permetta signor Crociani. Ma vedremo come nel caso di Galli, non basta confessare e dire quei soldi per sbaglio sono stati rimborsati, quelli del matrimonio della figlia, soldi vostri. Ascoltatore di Radio 24, ascoltatore della Zanzara, non basta questa parte che, credo Parenzo, che non è che il reato si estingue, no? Ma no, certo. Va avanti lo stesso anche se restituisci i soldi, il peculato. Nicole, dimmi tutto, amore mio, dimmi. Ancora a casa, siamo ancora qui. La Zanzara 800 24 00 24. Oggi Pannella ha accettato i liquidi per vena. Io sto con Marco. Io non sto con nessuno. Mi dicono che uno degli obiettivi sia la creazione di una lista a favore dell'indulto, a favore dell'amnistia, quello che è, di un provvedimento di clemenza. Ora ditemi voi se è possibile arrivare vicini alla morte per una lista, sì, per la creazione, sì, di una lista. Sì. Vabbè, solo tu, sì, credi a queste, solo tu, sì, sei rimasto a credere, perché a queste puttanate. C'è gente che si è ingrassata col finanziamento pubblico fino a mangiarsi cose pelose, lecca, comprarsi film, libri, fare banchetti di nozze, e c'è gente che muore di politica, capito? Bah. Ah, scusa. Sì, dimmi. Mi hanno appena chiamato. Sì. Segnalato il busto di Almirante, sì, ritrovato nel paese di Gaggio Padovano. Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io. Ascolta questa cosa, Stefano Galli, capogruppo della regione, della Lega in regione Lombardia, abbiamo detto che ha ridato i soldi usati per le nozze della figlia, dicendo che era stata inserita la fattura erroneamente nella lista dei rimborsi. Senti quest'altra cosa: se avessi voluto arricchirmi, aggiunge Galli, avrei accettato le centinaia di migliaia di euro che mi sono state offerte per influenzare appalti negli ospedali lombardi. Non avrei rischiato di rovinare la mia vita per 6.000 euro. Ora, al di là del fatto che uno prende pure 6.000 euro quando capita, cioè non si fa problemi. Però scusa, perché non è andato a denunciare il fatto che qualcuno gli ha offerto centinaia di migliaia di euro per influenzare gli appalti lombardi? Cioè, non mi è sembrato che sono fioccate, piovute denunce da parte del signor Galli, per contro qualcuno che ha cercato di pagargli, ha provato a pagargli delle mazzette per la sanità in Lombardia. È molto grave che non abbia denunziato, perché lui è un consigliere regionale, quindi è un funzionario pubblico, e ha l'obbligo di denunciare come qualsiasi cittadino, ma è molto più grave perché è un consigliere regionale. Giorgio dalla provincia di Como, che è consigliere comunale della Lega, dove? In che paese, Giorgio? Cantù, provincia di Como. Ah, Cantù. Allora, come le sembra questa storiaccia dei rimborsi? No, ma dei rimborsi, allora, le stronzate che ha detto Galli a termini di legge. A termini di legge lo dice, per, secondo me, se mi permette il signor Cruciani, fiorito. Ma nella Lega è una cosa superiore. Lei no? Ci crede, Giorgio, lei ci crede che uno per sbaglio ha messo le ricevute del matrimonio della figlia? Sono tutte puttanate, io faccio il professionista, sono stronzate, se lei va a vedere i miei articoli nell'89 io dichiaravo che c'erano i ladri di galline, le faccio un esempio. Se dunque i suoi amici leghisti alla regione Lombardia sono che ladri di galline? Ma glielo dico subito, sono stato già sospeso due volte. Io le dico, quello che ho detto nell'89 è sospeso anche allora ed ero il più votato. Dissi che si va a rubare le uova nei pollai, si lasciano fuori le scarpe, mi rubano persino le scarpe quando si entra a rubare le uova. Ecco, questo era l'esempio che facevo allora. Avendo frequentato qua la Sicilia mi rendevo conto che è un livello superiore il siciliano. Questi qua sono ladri di galline, quando si ruba si ruba. Ruberei anch'io 10 milioni di euro, anzi domani vado in banca e con un cartello con scritto: signori, se rubo oggi e domani ve li restituisco, sono innocente o colpevole? Colpevole, se mi permette, Cruciani. Bravissimo. Va bene, Giorgio, grazie. Salvatore da Napoli, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Chiamavo in merito alla, a Casini, quell'intervento che ha fatto. Allora, il problema è questo. È che qui non si può nemmeno pagare più la luce, quindi non la spegniamo. Perché vabbè, non esageriamo, su Salvatore, non si può più nemmeno accendere la luce, no, su, io, dai. Io vivo in una realtà che è Napoli e le posso garantire che... Non si può nemmeno più accendere la luce, non si possono nemmeno più pagare le bollette, dai, su. C'è gente, non sto scherzando, c'è gente veramente che non ce l'ha la luce in casa, che non la può pagare. Secondo me, credo io, il pensiero di molti italiani sarebbe che dovrebbero morire tutti questi. Ma chi non dovrebbe morire? Ma chi? Tutti i politici che ci stanno, dal primo all'ultimo, cioè dai consiglieri. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire devono morire tutti i politici? Salvatore, ma non si vergogna di quello che dice? Sta dicendo delle stronzate pazzesche. Assolutamente non mi vergogno. E chi lo fa il governo? Chi amministra? E chi se ne frega? Chi amministra? Portatelo via, dai. Allora, chi amministra? Se dobbiamo avere dei ministri o dei politici che amministrano in questo modo e rubano i soldi alla povera gente. È meglio non avere un governo. Vabbè che per come sta andando lo spread, questo caos, questa incertezza istituzionale, quasi giova lo spread, senza governo praticamente. Però le posso dire una cosa, qua ci sono delle realtà, io parlo della mia regione, cioè io vivo a Napoli, sono napoletano, ci sono delle realtà che sono inesistenti, i governi locali sono inesistenti, quindi è come non aver, noi averli e non averli, cioè se ce li abbiamo ci rubano, se non ce li abbiamo lo stesso ci fanno stare male. No, ma quello sicuramente, però non bisogna augurare, non è che bisogna augurare la morte a tutti, sì, i politici, che vuol dire? Ci stanno ammazzando. Ma chi? Ma chi? Ma sono altri motivi, non è che vi stanno ammazzando i politici, su Salvatore, non è così, non è così. Allora, l'Italia si è ammazzata per altri motivi, l'Italia è ai minimi termini per altri motivi, per il debito pubblico, per una serie di errori commessi nel passato enormi. Una serie, io li invito a fare una cosa, Cruciani. Allora, noi stiamo sentendo da anni tutti i soldi che hanno rubato i politici, i mafiosi, lei faccia un po' il conto di tutto quello che hanno rubato, lo divida per 60 milioni e veda un po' che cosa esce fuori. Va bene, grazie. Vito da Varese, buonasera. Sì, buonasera. Niente, io stavo appunto sentendo anche il nostro politico lì che si è messo in tasca 6.000 euro per pagare le spese del matrimonio della figlia. Io, dopo tutto quello che senti anche questo, le cozze pelose, io dico soltanto che è una vergogna. Cosa? È una vergogna perché tutto questo, che il politico si dà anche i soldi e dice che per sbaglio gli sono finiti in tasca da soli. Beh, certo che è una vergogna. A me non mi è mai capitato, guarda, io sono un piccolo autotrasportatore. Sì. A me fino adesso non mi è mai capitato di trovare un camion nuovo in mano e non sapere chi me l'ha pagato. Ma certo, è così, Vito, ma non è possibile che uno paga, inserisce una fattura, uno scontrino per il ricevimento della figlia e poi scopre che non è che è stato un errore. Su, ma chi l'ha messa quella ricevuta là per il matrimonio della figlia? Sono gli stessi che urlavano Roma ladrona. Gli stessi, esatto, bravo, gli stessi. Roma ladrona, e poi abbiamo visto cosa ha fatto pure il capo di Roma ladrona lì, no? Con il figlio che sappiamo tutti quello che ha fatto, no? E lui era quello che diceva Roma ladrona, Roma ladrona, Roma ladrona, è vero, proprio vero, guarda, io che poi io solo abito proprio nel centro della Lega Nord, perché la Lega Nord è proprio di Varese. Va bene, grazie Vito. Savino da Frosinone, buonasera. Sì, pronto. Salvino, dica. Sì, Salvino. Allora io volevo fare tipo qualche piccola riflessione, no? Sì. Casini tipo ha detto che praticamente Berlusconi era un male per l'umanità, cos'è? Ma lui fino a tipo a pochi anni fa ha vissuto 10 anni insieme. Mm. Se ne è accorto soltanto adesso. Mm. Fine tipo che praticamente. Vabbè, è da tempo che Casini si è staccato da Berlusconi, però. Sì, giusto. È Fine praticamente che si è staccato in un secondo momento. Cioè, sono quasi 5 anni ormai. Fine che diceva se si dimetteva Berlusconi, lui per lo scandalo di Monte Carlo si dimetteva pure. Vabbè, quello è un altro discorso. Vabbè, però secondo me c'è l'opinione che si fa il cittadino italiano è che comunque questi sono tutti personaggi che restano là e cercano di restarci più a lungo possibile. La verità è questa. Ah, che Casini non venga inserito, se non da pochi organi di stampa, nella lista di quelli dei dinosauri, pur essendo in Parlamento dal 1983, è abbastanza incredibile. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Mi ha beccato, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Allora, si vota il 24 di febbraio. Berlusconi ottiene una settimana in più. Il Partito Democratico conferma le primarie per i parlamentari il 29 e il 30 di dicembre. Anche se qualcuno, soprattutto quelli più sfavoriti, chiedono: ma a questo punto, siccome c'è una settimana in più, perché non spostare anche la data delle primarie per i deputati del Partito Democratico? Ed effettivamente non sarebbe una cosa così strana. Abbiamo con noi uno dei promotori del manifesto Io ci sto, in cui si dovrebbe candidare anche Antonio Ingroia, il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando. Buonasera. Come sta, caro Orlando, come sta? Ma come può stare un sindaco che deve affrontare i 1000 problemi della sua città? È un casino. Comunque, ma mi dica la verità, Palermo è abbastanza ingovernabile. Adesso non parlo, ovviamente no, lei mi dirà di no, però è un casino, ma... Ma proprio questo dà un senso al mio impegno, sì. Che è un impegno pieno e forte, sì. Sapendo che veniamo da 10 anni sì. Di abbandono e di barbarie e che vogliamo tornare. Mi dica l'ultima follia, che ha dovuto affrontare. Orlando, l'altra volta mi ha detto una follia, mi dica l'ultima, proprio l'ultima che le è capitata in questi giorni, proprio una stranezza, una cosa assurda. No, a parte la palazzina naturalmente, ma quello è un altro discorso. Ho dovuto vivere questa tragedia assieme con i palermitani, sì. E mandare un invito forte a denunciare sì. Gli abusi edilizi ed evitare di chiudere gli occhi quando qualcuno nel palazzo sì. Toglie un muro oppure realizza una sottoterrazione magari nascondendola con una finta. Ecco, no, ma di sprechi, per esempio, di sprechi che ha trovato di recente lì proprio al comune di Palermo, una follia che ha scoperto di recente non è possibile. Una follia è la più grande azienda del comune di Palermo fallita, sottoposta a procedura fallimentare che stiamo cercando di spiegare. Qual è quella del... L'AMIA, l'azienda ambientale, con la conseguenza che i palermitani chiedono che Palermo sia pulita. Questa azienda è amministrata da 3 amministratori che sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, incassando soltanto 1 milione di all'anno di indennità. Comunque, per questo incarico. Ci vorrebbero anche meno. Euro l'anno indennità a 3 persone e io li guadagnerò come sindaco forse in 10 anni. Comunque ci vorrebbero pure meno dipendenti al comune di Palermo, mi dica la verità. E quello sicuramente ci dovrebbero essere usati meglio. Beh, anche meno dipendenti ci vorrebbero, su. Bisognerebbe evitare di fare quello che si è fatto in passato, di dire a un dipendente che si metteva in pensione volontaria e ti assumo il figlio. Questa concessione sì, è successo anche questo. È successo pure questo. Ma se il comune di Palermo avesse, che ne so, il 20% di dipendenti in meno, sarebbe lo stesso efficiente? Mi dica la verità, sì. Li avremo il 20% nell'arco dei prossimi 4 anni perché con un sistema di pensionamenti li faremo dimagrire il comune. Di quanto? 2000 unità nei prossimi 5 anni. Quanto? 2000 unità nei prossimi 5 Dunque, anni. Dunque, che percentuale? Che significa sostanzialmente una cosa che assomiglia al 25%. 25%? Dunque, se oggi ci fosse il 25% in meno, in realtà non cambierebbe. Anzi, a condizione di organizzarli meglio. Vabbè, quello è chiaro. Però qui, Orlando, noi... noi l'abbiamo chiamata soprattutto per parlare di una cosa, lei lo sa, insomma, adesso non ci possiamo nascondere. Sì. Ingroia, me lo dica lei, perché qui i balletti a noi non ci piacciono, sembrava pure Monti, sembra quasi Monti Ingroia, cioè sì, no, forse, perché torno a Guatemala, si candida, sì o no? Io posso assicurare che Antonio Ingroia, con il quale fino ad oggi ci siamo sentiti, torno da Guatemala, e torna sicuramente dal Guatemala non per caso il 21 di dicembre, non certo. Il 21 di dicembre, perché vuole dire che è disponibile all'impegno, l'impegno nelle forme che verificheremo quali saranno, ma sicuramente sì. Io ho firmato il manifesto che sì. Antonio Ingroia come primo firmatario, sicuramente l'ho firmato per mandare un messaggio di contenuti e non certamente per dar vita soltanto sì. a un'iniziativa di dibattito un pomeriggio. Appunto, però siccome Roma. Tutti quanti chiacchierano e nessuno poi ci mette la faccia, qui abbiamo, le faccio un elenco. Pare che Monti, secondo quello che dice Dagospia, potrebbe semplicemente fare un appello e non candidarsi, però è tutto da verificare. Montezemolo non si candida. Riccardi ha appena annunciato, il ministro dell'integrazione, che non si candiderà. Nessuno si candida e ci mette la faccia. Ingroia ci metterà la faccia sulla scheda elettorale, sì o no? Ma intanto l'ha già messa firmando un vabbè, quello firmare, esatto. Un manifesto che dice con chiarezza che vuole essere un contributo a far nascere una cosa radicalmente nuova. E vabbè. E una cosa radicalmente nuova non è suscettibile di avere interprete, quindi posso chiedere di aspettare venerdì no. alle 17:30. Ma quello aspetteremo, però ci metterà la faccia su. Ma guardi, io me lo auguro, è un motivo di augurarmi che... Candidato premier? Candidato premier del Movimento Arancione? O come si chiamerà? Tanto non è il Movimento Arancione, così come gli arancioni, com'è che vi chiamerete? Com'è che vi chiamerete? Bisognerà stabilire il nome, bisogna stabilire tutto. Questo non è né la rete di Orlando, né gli arancioni di De Magistris, né i partiti tradizionali. Noi vogliamo l'Italia dei Valori. Nell'Italia dei Valori, certamente. Noi vogliamo contribuire. Né tanto meno. No, tanto meno no. Ma le piace un nome che le piace? Quale potrebbe essere? Si è parlato di una V, no? Di una V come vendetta, non mi ricordo che cosa, ma non... V come vendetta. Saprei, diciamo, ha un nome in testa lei, Orlando? Un nome in testa? Deve essere un nome che dia con chiarezza il senso che è una cosa che si rivolge che va oltre i partiti, ma non contro i partiti, che è un contributo per dare una risposta alla politica. E vabbè, però i nomi sono importanti. I nomi sono importanti. Vabbè, i nomi sono i nomi che evocano sostanzialmente un'azione collettiva, che evocano la partecipazione, un'autentica rivoluzione nel nostro paese. Dunque la parola rivoluzione ci potrebbe essere. Vabbè, mi dica un nome che le piace, Orlando. Quello che le piace a lei. Il mio nome? No. Il nome che non sarà sicuramente scelto? La rete. No, la rete è d'accordo, no. Però arancione anche ci sarà. Anche se mi auguro che sia una cosa che evoca appunto sì. una grande rete. Senta, ma non è un... Ma non è... storie diverse per sì. un progetto politico. Senta, comune. Ma non è un po' inquietante un partito di ex magistrati, guidato da ex magistrati, in cui i principali leader, a parte lei ovviamente, c'è cioè De Magistris, Ingroia... e altri sono, ancora, Pepino. Ci sono tante persone che hanno aderito. Però gli uomini simbolo sono quelli. Ha aderito Maghita, hanno aderito tante persone. Ha aderito a Franco Battiato, voglio dire, ha aderito a Fiorella Mannoia. Voglio dire, cioè, ci sono tante adesioni. Vabbè, quelle sono le adesioni, però gli uomini simbolo. Civile, diciamo. Mi pare che il tema non è se sono stati magistrati o non sono stati, ma se sono un punto di riferimento di un sistema di valori che è condiviso da chi è magistrato e da chi non è magistrato. Oggi Di Pietro ha detto che ci sarà il simbolo dell'Italia dei Valori e lui nel simbolo. Allora io voglio capire una cosa, prima si era parlato di... non lo volete Di Pietro in questo nuovo movimento? No, in modo più assoluto credo che Di Pietro sia un pezzo importante della storia di cambiamento di questo paese. Però ha detto che ci sarà il simbolo dell'Italia dei Valori, farete un accordo? Ma è, il tema di fondo è molto semplice. Noi siamo, il tema esiste. Se nasce qualcosa di nuovo, io sono convinto che tra i valori sarà presente e promotrice di questo contesto. Ma come? Dentro? Cioè si deve sciogliere una cosa nuova? Ma ma l'Italia dei Valori esiste come partito. D'accordo, ma si dovrà fare il suo congresso il prossimo anno. Noi stiamo parlando di una lista elettorale nella quale evidentemente vediamo chi è disponibile a candidarsi. Anch'io sono curioso di capire chi è che firma un manifesto e chi poi è disposto a metterci la faccia. Però Orlando, vediamo, la domanda è questa: Italia dei Valori, voi pensate di fare un accordo oppure di fare una roba in cui l'Italia dei Valori si scioglie ed entra dentro una cosa nuova? No, l'Italia dei Valori ha deciso di non sciogliersi e di tenere il suo congresso il prossimo anno. Dunque, l'Italia dei Valori c'è e rimane. Lei si sente dell'Italia dei Valori ancora oppure no? No. Io mi sento assolutamente dell'Italia dei Valori, ma mi sento anche di una cosa, la responsabilità di costruire una cosa nuova. Beh, e considero l'Italia dei Valori uno strumento utile per far nascere una cosa nuova. Quindi mi consideri un ponte, va bene così? Un ponte, sono un ponte. Io non voglio il ponte sullo stretto, ma però gli altri ponti mi piacciono, ma gli altri ponti mi piacciono. Però ha risposto alla Veltroni, sì, ma anche sono dell'Italia dei Valori, ma anche della cosa nuova. Vuole che le dico una cosa certa che farò? Mi dica. Io farò sicuramente il sindaco di Palermo, candiderò a queste elezioni politiche e quindi, essendo libero di fare il sindaco di Palermo, posso anche tentare di far nascere una cosa nuova. È il mio impegno, il mio sforzo. Ma dal punto di vista elettorale l'Italia dei Valori è finita, diciamo la verità, Orlando, su, è finita. Ma non sarei così convinto, perché sabato scorso 3.000 persone da tutta Italia, loro spesso sono venute per dire che vogliono continuare a essere ed esistere. Bah. Io sono convinto che dal punto di vista politico sia un po' finita l'Italia dei Valori. Lo facciamo dire agli elettori. Vabbè, quello è chiaro, quello va da sé. Comunque, lei vede Ingroia come o è candidato premier oppure non ha senso, mi dica la verità, questo impegno. Io mi auguro che lui scenda in campo ponendosi come punto di riferimento, che faccia sintesi di tante realtà diverse. Sì. E io, per quanto riguarda la mia storia, sono pronto a consegnare ad Antonio Ingroia la sintesi anche della mia storia. La sintesi della storia. Parenzo, che c'è? Chiedi qualcosa. Bersani, Bersani non vi vuole, mi sembra, per gli attacchi di Ingroia a Napolitano. È difficile. Ma credo che noi dobbiamo in tutti i modi cercare di chiedere al PD se ci sta, ma ovviamente su due punti molto fermi. La prima, qual è? Una chiara posizione sulla trattativa Stato-mafia, che costituisce un'autentica vergogna per la vita del nostro paese. Non è che si può fare una trattativa politica? Non siamo capiti. La seconda, un'agenda intransigentemente alternativa all'agenda del governo Monti. Senta, ma secondo lei la ricandidatura di Monti è una mezza truffa rispetto a quello che aveva detto all'inizio? No, guardi, io credo che il problema riguarda Monti e i partiti che l'hanno sostenuto in quest'anno e mezzo. Però è legittimo candidarsi, oppure? Ma nessuno può impedire a nessuno di fare quello che vuole. Noi avevamo cercato, cercato disperatamente di dire al professore Monti, persona stimata che non possiamo che apprezzare, che facesse il governo tecnico. Il governo tecnico, se dura più di 6 mesi, diventa politico. No, su questo non c'è dubbio. Purtroppo cioè, è stato preso un po' dall'ambizione, dice lei. Ma no, se lui avesse fatto per 6 mesi presidente di un governo tecnico e si andava alle elezioni, avrebbe fatto quelle cose che entrando nella palude dei tre partiti che l'hanno sostenuto, di fatto non ha fatto. Avrebbe fatto, per esempio, una bella patrimoniale colpendo chi ha di più anziché colpire chi ha di meno, avrebbe sicuramente realizzato una maggiore efficacia nel suo impegno di rigore. Sì. Scusi Orlando, però le posso chiedere una cosa? Sono curioso di capire, lei che ne pensa di questo ritorno di Berlusconi anche in televisione, eccetera. Che effetto le fa? Ma fa l'effetto di chi sa che da 20 anni non se n'è mai andato. C'è qualcuno che si è illuso, prima si è illuso con la famosa bicamerale, poi si è illuso. Vabbè, pure lei da 20 anni sulla breccia, se non di più, Sì, però sempre la stessa parte. Beh, pure lei ha cambiato un po' di partiti, di movimenti. La realtà che per me sono più importanti, vado in cui credo, anziché le convenienze di stare in un partito. E il consenso elettorale dimostra che forse le persone hanno apprezzato la mia coerenza. Parenzo, che dici? No, scusi, volevo dire a Orlando, visto che Berlusconi si ricandida, ritorna in campo dopo 20 anni, tutti quelli che ancora da 20 anni continuano a dare la fiducia a Silvio Berlusconi, lei come li giudica questi elettori? Dei coglioni? Io credo che questi 20 anni dovrebbero aver dato a tutti coloro che in buona fede 20 anni fa hanno iniziato a votare per Berlusconi più di un motivo per pensarla diversamente. Ma io quelli che ancora oggi la votano. Io non votano. Non giudico mai chi vota diversamente da come voto io. Un'ultima cosa, Orlando, ma lei le avrebbe scelti come assessori persone, per carità, stimabili, ma a mezzo servizio come Zichichi e Battiato, al di là del fatto che Battiato ha aderito, però lei come sindaco di Palermo avrebbe scelto assessori a mezzo servizio come ha fatto Crocetta? Ma credo che il presidente Crocetta stia tentando di vabbè, d'accordo, al di là di quello che sta tentando Crocetta, voglio sapere, lei avrebbe scelto assessori a mezzo servizio, perché di questo si tratta. Non avrei scelto, io ho imposto agli assessori della mia giunta di farlo a tempo pieno, andando incontro a sacrifici molto forti, e per sua tranquillità nessuno degli assessori della mia giunta è iscritto tra i valori, ma io non per questo sono convinto. E vabbè, questo è giusto, però lei è importante. Assessori a mezzo servizio come Zichichi e Battiato non l'avrebbe mai scelto. No, anche perché diventa sostanzialmente un modo per fare anche lui l'assessore di tanti troppe cose, non credo che lui possa fare l'assessore. Cioè Crocetta, dice lei, no? E certo, Crocetta rischia di dover fare l'assessore al posto di Zichichi. Magari lo vuole fare, ma è complicato, eh? Ma molto complicato, io su questo sono d'accordissimo con lei. È complicato anche perché se la struttura regionale non è in sintonia con le cose che lui vorrebbe fare, lui si trova di fronte a scelte che non ha mai conosciuto, non ha mai condiviso, e che comunque saranno motivo di giudizio. Poi questo al di là della valutazione sulle persone, che sicuramente sono persone bravissime, stimabilissime, che danno prestigio, però è una scelta molto mediatica, mi dica la verità, molto mediatica. Considero un impegno di assessore di una regione a tempo parziale una mancanza di rispetto per i siciliani. Ma è anche una scelta mediatica? Sì, siamo come il governo tecnico. La scelta mediatica può durare 6 mesi, poi dopo... Arrivano i problemi. Si dice dalle mie parti che quando squaglia la neve si vedono i buchi. Siete delle merde! Eccoci qui, le merde evocate da Emilio Fede, 800 24 00 24. Fabio da Chieti, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vada. Notizia. Che è successo? Segnalato il busto di Almirante in Guatemala, nella casa d'Ingroia. Ma non faccio il cretino. Fabio, dica. Io volevo fare un intervento riguardo a Grillo, volevo chiedere soltanto perché Parenzo si scandalizzasse così tanto. Si scandalizza, del fatto che il fatto che Favia o la Sarsi, non so chi fossero stati cacciati. Insomma, uno aderisce a un movimento, penso che sia una cosa giusta rispettare determinate regole, che piacciono o no, quindi... Lo sapevano 8 anni fa, 7 anni fa, non vedo perché adesso tutto questo scandalo. Non è che ci fossero le stesse regole. No, non so, se poi non ricordo male, se non sbaglio, anche Grillo voleva candidarsi nell'allora PD o qualcosa del genere. Non mi pare che la sua candidatura non fu accettata, non mi pare che a Bersani fu accusato di scarsa democrazia. Alle primarie. Esatto, non mi pare che fu accusato di scarsa democrazia. Qualche anno fa, esatto. Quindi solo questo, non capivo il motivo di questo scandalo che Parenzo ogni volta non sta nella pelle quando sente questo argomento. Solo questo. Perché a lui piacciono queste parole vuote, no? Ogni tanto vuote. I movimenti devono avere al loro interno la democrazia. No, l'aveva detto. L'aveva promesso lui. Ma cosa ha promesso? Cosa? Lui aveva creato quel movimento dicendo una grande rivoluzione dove i cittadini decidono, gli iscritti decidono tutto. Lui l'ha detto, lui! Ma dove? E adesso ti sei piegato. Ma piegato cosa? Io cerco di ragionare. Ti avranno promesso di candidarti da qualche parte. Ma che mi hanno promesso? Vabbè, figurati, se Grillo mi promette qualcosa, non mi può vedere. Sì, ma sì, quale strapuntino? Solo che io non ho il prosciutto davanti agli occhi e dico che Grillo e Casaleggio, seppur, stai tranquillo, seppur inquietanti per certi versi, sono dei geni, perché se riescono a portare 50, 60, 70, 80 grillini in Parlamento come automi, a governarli come automi, perché quello vuole fare Grillo. No, ma io di questo sono consapevole, ma questo lo sanno anche loro. Non possono immaginare di discutere con la divinità. Guarda. Cioè, cosa si aspettano i consiglieri regionali, comunali, provinciali o non so che altro del Movimento 5 Stelle? Di ragionare con Grillo, di parlare e ragionare e magari addivenire ad un accordo? No, lì c'è la divinità. La divinità senza la quale loro sarebbero niente, sarebbero polvere, sarebbero nulla. Lì c'è la divinità e loro sono degli strumenti della divinità. Ma questo è tutto chiaro sin dall'inizio. Ma cioè, assolutamente no. Come no? È tutto chiaro sin dall'inizio. Chi non vuol vedere questa realtà finge, capito? Ipocritamente finge. Adesso alza la testa, perché dopo un po' di anni è evidente che questo sarebbe accaduto. Le persone candidate nel Movimento 5 Stelle diventano più adulte, dunque passano dalla situazione di soggezione totale nei confronti della divinità, pensano di poter interloquire, pensano di andare a Ballarò, magari a Porta a Porta, e dire: ah, però Grillo sbaglia. Ma che sbaglia? Ti ha portato lì, eri nulla, eri zero, ti ha portato lì, cosa dici sbaglia? Non hai mai detto una parola, nulla, anche quando ha detto le peggiori porcherie e nefandezze, quando ha paragonato Berlusconi a Hitler o non so a chi, quando ha paragonato il PD alla PDL, ha detto le peggiori nefandezze, Grillo, nei confronti dei partiti, e loro, gli stessi che adesso predicano democrazia, muti, zitti per una vita. Perché? Perché muti, zitti per una vita? Perché? Dai, su, replica queste cose, avanti. Ma no, guarda, purtroppo, siccome tutto il tuo ragionamento si basa... Ah, fermi tutte. Che è successo? Mi hanno risegnalato la presenza del busto di Almirante. Ma chi è che ti segnala queste cose? Chi ti segnala? Mi arrivano segnalazioni di continuo. Tiziano, su Twitter, ritrovato il busto di Almirante ad Abano Terme all'Hotel Savoia. Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io. Giorgio D'Ancona, buonasera. Anzi no, Fabio da Chieti. C'è ancora Fabio? Di Almirante. Fabio da Chieti, buonasera. Grazie Cruciani, buonasera. Salve. Allora? Vabbè, Giorgio D'Ancona. Giorgio D'Ancona, buonasera. Vada. Vorrei dare un contributo di oggettività alla discussione. Prima sentivo Salvini... Contributo di oggettività che... adesso mi sembra. Comunque. Beh, vorrei darla perché... Prima sì, no, Salvini... no, per carità, però dica. Grazie. Salvini diceva che riceve molte mail di pensionati disperati, sì, e di gente che non può pagare l'IMU. Sì. Vorrei ricordare a Salvini e agli ascoltatori che dal bollettino economico della Banca d'Italia si può rilevare l'aumento dell'indebitamento dello Stato italiano, sì, di 500 miliardi di euro, dico 500 miliardi di euro, dal 2001 al 2011, cioè durante 10 anni di dittatura in Parlamento da parte del centrodestra, con oltre 100 deputati e senatori di maggioranza. Bravo Giorgio, bravissimo. Partito, ecco, se un partito che si definisce liberale, anziché contenere le spese pubbliche, razionalizzare la spesa pubblica, ridurre la tassazione, per non dimenticare poi i vari condoni del buon ministro Tremonti, che poi scrive libri e discetta sui giornali, lui ha fatto dei condoni uno dopo l'altro e ha regalato soldi agli evasori quando ha fatto dei condoni con la Svizzera, lo scudo fiscale che è veramente ridicolo al 3%, e quindi non capisco quale possa essere oggi il Brunetta che ha bisogno del prestito per pagare l'IMU, il buon Salvini, Berlusconi e compagnia varia. Grazie Giorgio, grazie. Franco da Messina, chiarissimo. Franco. Buonasera Cruciani. Vada. Mi sente? Sì, sì. Dunque, allora, diciamo che da circa 2-3 anni che volevo parlare con lei, e lei, ho mandato anche dei messaggi sul telefonino. Non lei era così difficile, bastava chiamare all'800-24-0024. No, ho chiamato 1000 volte, non mi avete voluto mai mandare in... Guardi, francamente, comunque, credo che non sia bene, così. Franco, va bene Cruciani, intanto io da persona che già non ha molto più grande di lei... Una volta facevo questo lavoro a livello anche di dentartistico e mi sembra veramente ridicolo che io debba per forza di cose, anche se so che c'è un filtro, devo dire le mie impressioni ad una persona, paro paro quello che intendo dire. Comunque, è la non ho capito nulla delle, comunque. E le trasmissioni. Comunque mi hanno chiesto di dire che ma cosa lei può, io avrei voluto dire in trasmissione. Ma lei può dire quello che vuole, a prescindere da quello che racconta al centralino. Se poi lei vuole dire una frottola al centralino, bene, non è un problema. Andiamo al succo, io desidero sempre. Quello è, una cosa. È quello che chiedo dire anch'io. Quello, apprezzo il suo lavoro, cioè il fatto che cerca sempre di intervenire, di mettere il dito nella piaga di quella che è la nostra situazione in questa condizione allora generale, eccetera. Il succo è questo. Io la inviterei invece ad insistere, visto che lei è un giornalista e quindi è anche collega di quella persona che ieri sera ha ospitato quell'altra persona di cui io non faccio il nome. La persona che faccio il nome è Bruno Vespa. Dove? Bruno Vespa. Chi c'era insieme a Vespa? Chi c'era insieme a Vespa? Una persona di cui io non faccio il nome. Vabbè, non ho capito, ma chi è? Non ho capito, che vuol dire non fa il nome, Franco? Il nome perché per me è innominabile, perché è una persona che non mi fanno tanta tenerezza. Innominabile che in realtà è un altro, ma lasciamo perdere. Va ma bene, mi fanno tanta tenerezza le persone che telefonano perché ancora sento la nostalgia di quello lì. Comunque lasciamo andare. Ma chi c'era ieri sera? Allora, io volevo mi dia dire, mi dia le iniziali. Lei, come mai lei non ha mai fatto rilevare che il signor Vespa, da quando ha ospitato con la scrivania, con il contratto degli italiani, se non avesse fatto almeno tre dei quattro punti non si sarebbe più ripresentato, e quello ancora c'ha una faccia come una sola, continua ancora a cantare quelle canzonette, a dire, ad illudere gli italiani. Vabbè, come tutto mai questo, tutta questa pippardella per dire che Berlusconi racconta sempre le solite cose e nessuno gli fa notare le sue contraddizioni. Tutta questa pippa per dire questo. Per dare onore all'ordine, un giornalista non può ospitare una persona politicamente in quella maniera e dire tutte quelle cazzate, scusando l'espressione, sempre le stesse da vent'anni a questa parte. È lui che fa lì lo zerbino facendole dire tutto quello che vuole, un monologo di quel genere lì. Ma lei, con una trasmissione importante, dovrebbe denunziare. Che ma non che denunziare? Denunziare il giornalismo servile. Quello non è giornalismo, quello non è assolutamente giornalismo, quello è volere fare da tappetino ad una persona che non merita assolutamente di essere ascoltata. Io non so se merita di essere ascoltato o no, questo non lo decide lei, ma lo decidono gli elettori se uno merita di essere ascoltato. Una cosa che le posso dire è che ovviamente, ma questo è questa è una questione semplicemente di sensibilità e di modi di fare, io avrei fatto certamente domande diverse rispetto a quelle delle persone che erano presenti lì, ma insomma questa è semplicemente una questione di obiettivi che si vogliono raggiungere con un intervistato. Evidentemente gli obiettivi lì sono diversi. Giuseppe da Padova, vedremo con Santoro se ci andrà. Giuseppe da Padova, eccomi qua, buonasera. Vada. Ecco, a un ritorno in che vabbè. Volevo intervenire a proposito di Pannella, del ricatto morale che ci fa ogni volta che fa uno sciopero della fame, di vedere Monti che si fa immortalare con la faccia sofferente vicino di Pannella. Hanno sfruttato il solito cliché di marketing politico per portare avanti una lotta e di togliere dagli altri problemi che ci sono. Nicole, dimmi tutto, amore mio. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique. Ne me pique pas. J'ai encore un cas, c'est bon. Moustique, mon vieux, tu vois trop petit. Tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Ciao. In questo momento il tuo amico è impegnato in una situazione molto toccante. Appena si libera, dirò chi hai chiamato. Forse. Dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio. Caro Galli, siamo sempre noi. Sappiamo che oggi ha restituito i soldi del matrimonio di sua figlia, del pranzo di matrimonio di sua figlia, dicendo che erroneamente lo scontrino o le ricevute erano state inserite in un'altra serie di ricevute che lei ha consegnato probabilmente alla sua segretaria. Volevamo dei chiarimenti su questo, come si fa a inserire lo scontrino del matrimonio, le ricevute del matrimonio. Vabbè, niente, amico mio, non la troviamo, mica. Non la troviamo, però ha sempre questa splendida segreteria telefonica. Però quando la cambiamo sta segreteria? Ormai lei, da questo punto di vista, sembra avere risolto tutto, anche se le indagini vanno avanti. Comunque non la vogliamo tediare, quando vorrà risponderci siamo qui. Adesso anche a me segnalano la presenza del busto di Almirante dappertutto. Hai visto? Basta con questa storia. No, a me l'hanno segnalata adesso, proprio sul grande raccordo anulare, uscita 16 Prenestina e uscita 17 Tor Bella Monaca, la presenza del busto di Almirante. Amici in macchina, siete pregati di uscire all'uscita 16 Prenestina Tor Bella Monaca a riportare il busto alla signora donna Assunta. Ma non grazie. Faccio il cretino, non faccio il cretino. Tutto sempre facile. Riportate il busto di un uomo che è stato volontario della Repubblica Sociale Italiana. Insieme a te è meglio lavorare, non sì, però devo dire una cosa su questo. Tu stai volutamente prendendo per i fondelli, anzi prendendo per il culo, una anziana signora no. alla quale è stato sottratto il busto del marito sulla tomba. Cioè, mi questa è stato è la chiesto realtà. Un parere su Almirante. Ma e lascia perdere. Un uomo no, pubblico, ho detto che è stato un fascista che ha fatto il militante volontario della Repubblica Sociale Italiana, quindi combattendo a fianco dei tedeschi. Ho detto che ha scritto sulla difesa della razza, rubano il busto. Ho capito, rubano il busto, rubano il busto. Ci dispiace, siamo affranti e amareggiati. Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io. Politicamente corretto proprio, chi se ne frega del busto di Almirante? No, che... dillo, chi se ne frega del busto di Almirante? Ma l'ho detto anche ieri, ma non mi interessa. Cioè, quando vengono fatti atti di vandalismo rispetto ai morti, stessa cosa, sempre, è la stessa sempre. Cosa. C'era sto busto di Almirante, l'hanno preso, e rifaremo, e rifarà un altro busto di Almirante, e rifarà un altro busto, e rifarà, e lo rifarà. Giorgio dalla provincia di Pescara. Salve, buonasera. Dica. Volevo porre tre quesiti su per quanto concerne la prossima tornata elettorale. Allora, in particolare tre quesiti, che vuol dire tre quesiti? E, diciamo tre elementi che ho individuato che potrebbero caratterizzarla, ovvero allora, diciamo che attualmente si vede chiaramente che dal punto di vista dei sondaggi, per quello che possono valere giustamente al momento, sì. Il centro-sinistra e il PD sono in vantaggio a livello, diciamo, di primo partito. Vabbè, questo non è la scoperta dell'acqua calda. Ok, benissimo, è una cosa, diciamo, abbastanza semplice di mentare. Vabbè, allora... Dall'altra parte il centro-destra è crollato, sì. E al centro sembra profilarsi, insomma, questa cordata, sì. Promonti, candidato, non candidato, eccetera. Sentiamo Pane sì. Bianco, Parenzo. Allora, ecco. Giorgio? Sì. Allora... Il mio quesito è questo, siccome adesso Berlusconi, diciamo, sta tentennando, sì. E sta aspettando le mosse di Monti e tutto il resto, e sappiamo che nell'attuale, diciamo, maggioranza, diciamo, provvisoria, lui con il centrodestra, seppur in maniera ambigua, lo ha sostenuto. E, diciamo, la sua manovra punta ad appoggiare eventualmente, diciamo, Monti insieme a tutta la parte dei centristi e tutto il resto, sì. Per recuperare una situazione nei confronti del centrosinistra che al momento, diciamo, è gravemente deficitaria, cioè si trovano molto indietro. Vabbè, allora Giorgio, però non la facciamo però lunga su, questo, caro Giorgio. Cioè, poi cosa succede? Se lui riesce a trovare questo punto d'incontro, punto siccome d'incontro. Adesso nell'esercizio attuale ha già dimostrato che su parecchi punti non segue diciamo il rigore operato, diciamo, da Monti, Giorgio, come europeista. La sto lasciando io fra poco. Ecco, cioè, ecco. Che possibilità avrebbe, anche se verrebbe eletto questo governo, di durare dal punto di vista del sostegno parlamentare? Cioè, ma quale? Il PDL non lo vedo legato quale? A Monti. Lei vuole capire se ci sarà una, in sostanza se secondo questo... voi ci sono le basi poi effettive. Per un accordo tra Monti e il PDL? Sì, ma intendo. Vabbè, no, lasci, fermiamoci qui. Abbia pazienza, fermiamoci qui. Questa è l'unica domanda interessante da fare. Giorgio, no, a mio parere, no. Non c'è alcuna possibilità che Monti faccia un accordo con PDL. Peraltro, dalle ultime notizie che trapelano, non farà nemmeno un endorsement a qualche lista. Sembra, poi vedremo nel fine settimana. Cioè, sembra che non scenderà in campo con grande delusione di Casini, Montezemolo, eccetera, eccetera. Ma qui non si candida nessuno, signori miei. Non si candida nessuno. Don Giorgio De Capitani, parroco di Rovagnate, provincia di Lecco, buonasera. Buonasera. Come sta, Don Giorgio? Sì, sento un po' lontano. Beh, questo purtroppo è un problema che capita sovente. No, sovente, sento, sovente. Adesso sente. Senta, Don Giorgio, volevo chiedere subito, ma lei che insomma è un fiero prete, parroco, sacerdote anti-berlusconiano, questa relazione che è stata ufficializzata nel salotto della D'Urso tra Berlusconi e la signora Pascale, come la vede? Comincio subito con un gossip. Beh, gossip, adesso non è più un gossip, è una realtà, cioè, ormai è una realtà consolidata. Cioè, Berlusconi ha detto, ha 50 anni meno di me, ma stiamo insieme, sono sereno, si è scusato per le feste, dicendo che era morta la madre, la sorella, aveva divorziato, ha avuto una serie di lutti, e dunque ha dovuto fare, si sentiva solo e si era circondato di varie persone. Ma io sarei contento che questa ragazza lo rendesse un po' felice, sì. Perché quest'uomo qui è un infelice da quando è nato. Un infelice da quando è nato addirittura. Beh, Don Giorgio, no, su. No, ma non è che perché ha i soldi o no, ha tutte le donne che voleva perché uno è felice o contento. Ma veramente, ma io sarei contento se veramente lo rendesse felice. Lei sarebbe contento. Vabbè, ma non ci crede molto, Don Giorgio. Sono affari suoi. Non ci crede, eh. Come? Non ci crede molto. No. No. Lei è furba, dai. Lei è molto furba, eh? benedica questa relazione. Ma si arrangia, insomma, a un certo punto ne ha fatti tutti i colori, adesso magari se trova veramente l'amore, chi lo sa. Benedica lei, Don Giorgio, questa nuova relazione, lei da prete, non faccia l'anti-berlusconiano sempre, benedica. No, magari se venisse nella mia chiesa, celebro io il matrimonio. Mi pare difficile. Don Giorgio. Che ne dice di Berlusconi di nuovo candidato? Mi mancava un po', Le mancava un po', Cosa devo dire? Mi dica qualcosa su Berlusconi candidato. Cosa devo dire? Ma questo uomo qui entra veramente adesso per scombussolare un po' tutte le carte, no? Sì. Lo sa benissimo che lui perderà, ma lui vuole proprio creare un casino e chiuso il discorso. Proprio si diverte anche a creare un casino, ecco. Si diverte a creare il caos. Ma sì, mettere uno contro l'altro, primo nel suo partito, adesso prima Monti lo distrugge, adesso lo glorifica, insomma, vabbè, è sempre stato così, no? È uno che ha nel suo DNA veramente la menzogna, no? Lui è un menzognero per natura. Menzognero, una volta disse anche un porco, no? Beh, è peggio. Adesso peggio. Anche perché certe volte mi dicono stia attento anche a dire porco, perché insomma anche gli animali vanno rispettati. Addirittura? Sì, si fa a dire porco. Peggio porco. Di un animale, dice lei. Ma non lo so, per me non è neanche un essere umano, è un coso. È un coso Berlusconi, ma lei è un prete, Don Giorgio, su. È un coso. Lei oggi dal suo sito dongiorgio.it ha pubblicato una foto di Berlusconi con scritto «Recidiamo i tentacoli e i testicoli del mostro». Don Giorgio, su, che ride. Ma cosa devo dire? Io non so più trovare le parole, anche perché ormai le ho usate tutte. Cosa devo fare? Il Padre Eterno mi ha ascoltato. Cioè? In che modo l'ha ascoltato il Padre Eterno? Non mi ha ascoltato. Ah, perché lei aveva chiesto al Padre Eterno di farla finita. E adesso spero che il popolo italiano faccia quello che il Padre Eterno doveva fare. Cioè? No? Cioè non eliminarlo fisicamente. Beh, lei questo però si augurava. Lo faccio come Libero, quel giornale lì che... quando ha sentito il mio video ha detto che io voglio, ho invocato l'omicidio. Io ho continuato a dire politicamente parlando. Beh, insomma. Politicamente insomma, parlando. Don Giorgio, insomma. Vabbè, perché il voto si può anche distruggere una persona, no? Beh, però lei si augurava la morte di Berlusconi, mi dica la verità. Ma non è perché non voglio fare un eroe, perché gli italiani poi non so cosa ne farebbero. Però non le dispiacerebbe, no? Una dipartita. Mi dica, sia sincero, su, come dovrebbe essere? Ma non so neanche poi dopo la reazione, perché questo è il problema. Io non ho mai augurato la morte fisica. Però se morisse gli italiani farebbero, alcuni italiani ne farebbero un simbolo, le dice. Ma vedremo tutti i monumenti, tutta Italia, questo è il problema, l'ho già detto. Lei non si preoccupa della morte dei Berlusconi, dei parenti? Ma dovrebbe rimanere lì inerme, cioè per tanti anni, ma cioè incosciente, basta, chiusi, in modo tale che gli italiani si dimenticano. Ah, incosciente addirittura? Ma sì, insomma, dai. Ma io questo uomo qui è pericoloso in tutti i sensi, perché è proprio, insomma, sa benissimo il popolo italiano com'è. Ma lei lo dice ai suoi parrocchiani quando dice messa? Come? Le dice queste cose ai suoi parrocchiani? Oh, anche domenica ho detto che è un porco, l'ho detto anche domenica. Anch'io ah, anche domenica scorsa. E i suoi parrocchiani che dicono? Beh, niente, sono abituati. Sono abituati? Anzi, andando in giro a benedire mi dico, oh, Don Giorgio, stia dentro ancora, dia dentro ancora di più. Addirittura? Perché certe volte in questi due anni mi, sì, mi vedevano un po' moscio. Perché l'avevano bastonata lì da Milano, Sì, colpa adesso dell'ultima intervista con voi, Sì, lo so, lo so. Che, lo mi, so. Hanno, che mi hanno chiamato, mi hanno fatto firmare che io non potevo più, ecco, rilasciare interviste. Poi, beh, il cardinale è cambiato. Beh, è arrivato un cardinale un po' più, no? Io non lo conosco. Però? Non so chi sia. Come non sa chi sia? È un anno che io non lo so chi sia. Io sono un po' orfano in questa diocesi. Però si sente un po' più libero adesso, su. E non dice niente, non lo so. Non dice niente, lei si sente più libero di dire quello che vuole. Però quando uno non parla, insomma, si dubita sempre, no? Perché lo faccia. Ma lei celebrerebbe più volentieri il funerale che il matrimonio o il matrimonio di Berlusconi? Ma anche il matrimonio, perché no? No, il matrimonio non ce la vedo. Anche, perché no? Perché non vuole... Ma l'ho già detto, io sarei contento se quest'uomo fosse contento, veramente. Però lasciasse tutto. Lasciasse tutto. Lasciasse lei ha detto che sarebbe contento, se fosse addirittura inerme, muto, immobile. No, ma anche se andasse, si ritirasse privatamente, basta. Io non avrei nessuna... Non chiede altro, anzi, lei non chiede altro. Lui veramente, mi sembra un po' povero, un uomo... Ridotto anche in povertà, lo vorrebbe, no? Come? Ridotto un po' alla povertà. Ma no, lo vedrei veramente, vorrei tanto che fosse felice, sì, ma stando nel suo brodo. E quale sarebbe? Casa sua, chiuso il discorso, basta, non si deve più interessare della politica, perché lui politicamente parlando non capisce niente della politica. Perché non vuole Parenzo? Perché l'altra volta mi ha offeso. Che ha detto Parenzo? Ma non so, ma sono delle parole... David, ho detto, che hai detto, David? No, non cominciare, perché ho promesso. Buonasera, ho promesso donne capitani. Ho detto semplicemente, e non lo ribadisco qui, ma do un aggiornamento rispetto all'idea che sono fatto io di Don De Capitani. Don Giorgio De Capitani. Don Giorgio De Capitani. Sì. Con tutto il rispetto per l'abito che porta, per quello che fa, dice delle cose che sono delle stronzate colossali. Ecco, un uomo di chiesa non dovrebbe parlare come parla Don Alcol, perché è una cosa gravissima. Come Don Alcol, che c'entra Don Alcol? Sì, sì, di quelle zone lì, secondo me, ma quando lo dico, anch'io sono uno che beve, viene dal nord, quindi ogni tanto bevo un bicchiere di vino. Cioè lei... Ma non si possono sostenere... Comunque, un uomo di chiesa Cruciani, non deve parlare così. Signor Cruciani, mi dica. Lei ha fatto una promessa? Sì, no, ma però... Voglio dire, siccome... No, io metto giù il telefono. No, ma ho capito, no, ma io... O che non lo fa più parlare... Ho capito, ma ha detto semplicemente che lei sta dicendo... No, non mi interessa, lei mi ha fatto una promessa. Sì, d'accordo, Don Giorgio, però siccome lei non voleva il mio co-conduttore, volevo capire anche il perché. Siccome l'offesa qual è? Il fatto che le ha dato dell'ubriaco? Anche l'altra volta non sapevo che c'era. Le ha dato dell'ubriaco? Questa è l'offesa? Io l'altra volta sono stato veramente perché ho detto, a un certo punto, con lei parlo volentieri. Ecco, perché so chi è. Sì. E lei mi rispetta, io lo rispetto. Sì. Abbiamo sempre fatto così, no? Sì, assolutamente. Ma io la rispetto. Ma siccome stamattina lei mi ha fatto una promessa. No, ma infatti non la sto facendo interloquire. Ma io la rispetto. Non la sto facendo discutere con Parenzo. Non la sto facendo. Se lo fa parlare ancora mi metto giù il telefono. La zanzara è quell'odioso insetto. Perché la puttana è andata a fanculo? Perché affonda il becco su di me. Mi ha beccato, ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Siete delle merde! Lo spray a disandare, mi sono messo il piede. Ma lei gira sempre intorno a me. Però fatemela riascoltare tutta a questo punto, dai. Fatemela riascoltare tutto, Fede, dai. Quello mandato da cosa? Quello mandato da... No, da Striscia. Quello mandato da Blob. Blob integrale, aspettiamo un attimo. Don Giorgio, non se la prenda con Parenzo, su, lei ne dice di tutti i colori su Berlusconi, no, adesso non può dire delle cose su di lei, accetti la sfida, come lei attacca Berlusconi, Parenzo la attacca, no, su. Ma scusi una roba, io parlo con lei, è chiuso il discorso, cioè io non capisco queste robe qua, con lei parlo, basta, chiuso. Ho capito, se non perdiamo il tempo in queste robe qua, finiamo più. Io poi non parlo più, dico solo questo. Non parlare più. Lei è un prete, sì. porta l'abito talare. Sì, ma parla un po' più in maniera un po' più decisa, no? No, non come no, perché sennò mi incazzo. Quindi uso provo a farmi una come training autogeno e parlare molto tranquillamente. Sì, sì. Io sicuramente non sono un filo berlusconiano, ma non ho mai sentito nella bocca di un prete tanto odio e tanta volgarità. Dopodiché mi taccio. Donde capitani, se i suoi fedeli sono contenti delle sue prediche politiche, perché di questo si tratta, invece lei dovrebbe occuparsi delle anime e non dei politici. Ma poi cosa? La cosa gli devo dire, se non vuoi neanche interloquire, come dice, io con quello non parlo. Ma cosa non parlo? Comunque adesso mi taccio, perché se mi fa arrabbiare, guarda, quindi mi taccio. Don Giorgio, va bene, è molto preoccupato che Berlusconi possa tornare a Palazzo Chigi? Perché vuole tagliare i testicoli addirittura? Ma adesso, anche se voi capite, va bene che il mio linguaggio, penso che sia anche tutta una cosa simbolica, no? Ecco, penso che realisticamente a voi non interessa niente. Basta, chiudo. E perché non? Perché dovrei desiderare che tornasse ancora? E che ne so? Allora, no, desiderare no. Desiderare. No. Io vorrei io capire. Non capisco io. Quest'uomo qui è un uomo nullo. Cioè, politicamente parlando, distrugge, basta. Ma non capisce niente di politica, non sa neanche cos'è la politica. Ma adesso pare che si sia messo anche con la testa a posto, una fidanzata nuova ufficialmente. Ma cosa c'entra questa storia della fidanzata? Beh, c'entra, come no? Io l'ho già detto, se almeno lo rendesse contento, sarei contento anch'io. Chiuso il discorso, perché a me piacciono le persone che veramente anche trovano un amore vero. Va bene, chiuso. Lui ha trovato un amore vero, sono contento, no? Basta, bene. Chiuso. Però non penso che lui abbia trovato un amore con la nazione. Lui con la nazione non ha nessun rapporto di amore. Non sa neanche cosa vuol dire amare una nazione o l'Italia. Lui odia l'Italia. Lei ha un linguaggio di odio. Usa, chiuso, ma non sa neanche cosa vuol dire amare il bene comune. Lui non lo conosce neanche cos'è il bene comune. E questo è il problema. Ma che lei, donne capitani, usa un linguaggio di odio. Dire, io amo veramente il mio paese. Sì. La parole lo dice. Don Giorgio, grazie, a presto. Niente. Maria Teresa da Roma, buonasera. Pronto? Dica Maria Teresa, dica. Poi salve, sono io. Aspetti che spengo tutti i cosi. Dunque, non mi ricordo più bene. Sì, volevo intervenire sul discorso di Pannella. Ci tenevo a far presente una cosa che mi ha colpito. Sì. Che mentre nel 2006, quando Pannella cercò di intervenire alla Camera per... o al Senato, manco mi ricordo... Sì. Per segnalare delle cose abbastanza strane, ci fu una persona, ahimè non c'è più, anzi ahi lui non c'è più, che lo quasi defenestrò dicendogli ma lei non è un non può parlare eccetera eccetera. Oggi viva Dio, a distanza di tanti anni, c'è qualcuno che si è preso la briga, a parte Monti che è andato a salutarlo eccetera, ma anche Napolitano che sembra per la prima volta aver preso. Vabbè, allora? Allora, il discorso è questo. Io sono abbastanza cinica quasi quanto lei, Cruciani, però le battaglie che ha fatto Pannella credo che, viva Dio... Un attimo solo. Brava. Vodafone. Squillano i telefoni, ma in questo periodo chissà perché dall'altra parte non c'è nessuno. Ma mica ci può sempre dire culo che ci sia sempre quella segreteria così sexy, insomma. No, quello no, quello no. Allora? Allora no, dicevo, credo che viva Dio esistono ancora persone che ci riescono, un attimo, riescono a... suscitare una certa sensibilità su certe cose. Ma nessuno lo mette in dubbio questo, ma nessuno lo mette in dubbio, ma non c'è la necessità di ridursi in quel modo, è puro narcisismo. Io sono convinta che sto sbagliando sotto quell'aspetto. No, però, ma è puro narcisismo. Che c'è il cazzo di coraggio di farlo. Ma che vuol dire? È puro narcisismo, perché non c'è un obiettivo. No, non è puro narcisismo. Sì, io ne sono convinto. E lo dico, lo pensano in molti di quelli che lo esaltano, ma io ho il coraggio di dirlo, al contrario di quelli che dicono io sto con Marco, i radicali, le battaglie, eccetera. In questo momento è puro narcisismo. Puro narcisismo. Non è narcisismo. Ma che vuol dire? Non si può parlare così. Per il linguaggio, io parlo il linguaggio della verità, per quello che mi riguarda. Non sono ipocrita da dire io sto con Marco. Credere a qualche cosa che purtroppo conta. Guardi, c'è un sacco di gente che crede alle cose e non si riduce in quel modo e non fa gli scioperi della fame e della sete. Non è che se uno crede deve per forza fare uno sciopero della fame e della sete. Ma io non lo farei mai. E allora, appunto, se uno crede in qualcosa, non necessariamente deve fare lo sciopero della fame. Non è necessario, eh. Crepando questa cosa. E allora cosa vuol dire? Allora, che vuol dire? Allora, aspetta, bisognerebbe costringerlo a mangiare, costringerlo a bere. Come no? Costringerlo, forzarlo, prenderlo, farlo mangiare, farlo bere. Ho 83 anni. Però, viva Dio, c'è qualcuno che lo fa, perché ma c'è gente che invece non lo fa nemmeno a ma che età. Vuol dire? Ma non vuol dire niente la parola viva Dio, va sempre commisurata a qualche obiettivo da raggiungere, non lottare c'è nessun obiettivo. Lottare per un principio, vabbè, deve meritare rispetto. È uno dei rari casi in cui mi trovo d'accordo con Parenzo, che peraltro è delizioso per tante cose. No, però scusi, cose Maria Teresa, abbia pazienza, ma va benissimo che uno sia un sognatore, eccetera, ma lei lo sa perché sta lottando? Lei lo sa perché Pannella sta facendo questo? L'ha capito? Certo. Perché lo sente che deve farlo. No, ma l'obiettivo qual è? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di battersi fino alla morte. Perché cosa? È un paradosso. Perché cosa? L'ha capito? Qual è? A sensibilizzare la gente, viva Dio, mentre nel 2006... Ma quale sensibilizzare? Un'altra cosa! Un ex presidente della Repubblica gli ha detto lei non può parlare, si levi dai coglioni. Questo Cristo, qualcosa ha smosso sto giro. Ma siete tutti dei sognatori assurdi, dei sognatori senza senso. Intanto la battaglia... Ho 58 anni, non sta parlando con una creatura. No, ma per carità, ma non si può essere sognatori anche... La battaglia di Pannella ha obiettivi molto concreti. Concretissimi, infatti. Qual è? Quello di fare la lista... Intanto la questione delle carceri. Ma che c'entra punto, l'obiettivo concreto? Non è l'evocazione di un problema. Sì, oggi, se tu fai... Secondo, ma perché non capisci? Perché sei intelligente, sei obnubilato dalla militanza. Ma non obnubilato. C'è ma qual è? Per una battaglia ma politica. Chi se ne frega del rispetto? Non devi avere rispetto, devi ragionare. Devi ragionare. Lo sciopero della fame e della sete per la questione carceraria, io gli dico rispetto, perché fai lo sciopero della USI, il tuo invece di approvano leggi per salvarsi. Ma io dico incredibile, e guarda, se ne fottono della situazione carceraria, primo punto. Ma non c'entra nulla con lo sciopero della fame, c'entra. Stai dicendo una cosa usa assurda. Usa uno strumento politico che è il suo corpo. Oddio, la sua vita. Ma perché devo sentire la propaganda radicale che ho ascoltato per anni? La devo ascoltare da te, la perché? La propria vita per la politica, mettere al servizio il proprio corpo, è una cosa altissima. Va bene, bravo. Avanti, mettetemi l'applauso, ha fatto sto comizio di propaganda, mettetemi l'applauso. Ma quale propaganda? Hai fatto la propaganda? Ma non so, da brava, che lo mandano a Radio Radicale stasera, vai, lo mandano. Bravo, lo mandano a Radio Radicale, non ti preoccupare, mettiamo gli applausi, su. Ecco, bravo. Bravo, ecco, hai fatto il tuo bel comizio di propaganda. Se non ci fossero stati i radicali, bravo, sì, meno, certo, vai. Non ci sarebbe il divorzio, l'aborto, l'obiezione di coscienza. Questo è perfetto. La battaglia di Coscioni che ha messo il suo corpo, poi bravo. È morto. Vai. L'unico che ha posto al bravo. Centro il tema della malattia per sì. La sclerosi laterale amiotrofica vai. È stato bravo. Il corpo di Luca Coscioni bravo. Utilizzato bravo. Nel show. Sei perfetto come per militante, sensibilizzare come militante radicale. Per sensibilizzare sei sul militante, tema della vita sei un militante, e della morte. Sei un militante perfetto. In Italia peccato, non esiste ancora l'eutanasia. Hai peccato che no? Peccato, il diritto a disporre del proprio corpo. Peccato, peccato che cadi nel ridicolo, purtroppo. Sei militante, ma come tutti i militanti cadi nel ridicolo. Non milito per niente perché sei militante. Sei delle militante. Battaglie vengono giuste a destra. Ma quale militante? Ma stai, noi viviamo ma in un Parlamento in cui c'è Ghedini. Ma che c'entra? Scrive le leggi. Mandatemi la canzone che non ne posso più di sentire una persona ridotta in questo modo. Non ne posso più. Le zanzare di casa mia. Fammi sentire invece di Parenzo, invece delle follie che sta dicendo, delle nelle cose da propaganda pura che sta dicendo senza guardare in faccia la realtà. Fammi sentire un numero uno assoluto, un mito del nostro secolo, del nostro tempo. Lando Buzzanca, buonasera. Buonasera, ho sentito le ultime cose. Beh, ma Pannella le piace a lei? Pannella esagera, secondo me, certo, però poveraccio, sta per morire, mi sembra, quest'uomo. Beh, speriamo di no, naturalmente. Speriamo di no, certo. Comunque non voglio entrare nella polemica, proprio. Non... Ecco, ma secondo lei fare uno sciopero della fame o della sete, quello che è sciopero della... Cioè, bisognerebbe, insomma, farlo anche con qualche scopo preciso da raggiungere immediato. Non è che uno fa uno sciopero così, si riduce in quel modo. C'è un po' di narcisismo in questa storia? Ma c'è un po', non lo so se è narcisismo, ma c'è un po' di esagerazione, quello sì, quello sì. Grande però Lando. Si espone, allora... poveraccio, si espone. No, sì, ma vuole perché... ottenere qualcosa, poveraccio. Bisogna vedere cosa. Sì, comunque non... Questo non l'ha capito nessuno cosa vuole ottenere, comunque. Appunto, però qualcosa vuole ottenere, non si sa cosa. Ma uno si può ridurre in quel modo, rischiando per che cosa? Per una cosa che non... Appunto. La sacralità del corpo è anche appartiene dell'umanità, no? Quanti anni ha lei, Buzzanca? Io ho 12 anni. 12? 12, sì, ma li porto malissimo. Ma li porta molto male 12 anni, Sì, ho 77 anni. Beh, uno in più di Berlusconi, o sbaglio? No, uno meno. Berlusconi ha 76 anni. Berlusconi è del 36. È del 36, io 76. Sono 35. E lei è del 35, uno in più, sì. Allora? Uno in più, sì. Uno in più. Per cui Berlusconi mi dovrebbe dare del lei. No, invece ci diamo del tu, ma io ho una persona che stimo molto, pensate un po'. Scusi un attimo, Buzzanca, ma l'ufficializzazione di questa relazione con una ragazza di 50 anni, che cosa le ha fatto venire in mente? Niente, che se è capace, bene, che sia all'altezza, beh, Ma lei ci crede che tra i due possa esserci qualcosa di... Ma sì, ci sono tanti modi di amare. Cioè? Come no? Cioè? Ma dai, l'ho già detto per voi, adesso mi mettete di nuovo in... Lei dice... Mi ha detto, Lando, ma cosa dici? Ah, lei dice, ci possono essere tanti modi di fare sesso, dice lei. Certo. In quel senso, modi. Sì, vabbè, già abbiamo detto. C'è anche il cunnilingus, che è una cosa preziosissima. Ecco. No, ma per questo, per carità, lei l'ha già detto una volta, assolutamente. Appunto, siamo della stessa categoria, no? Sì, beh, assolutamente, io figuriamoci, sono d'accordo nella maniera più assoluta. Le dice, la donna si ama in tutti i modi. Sì, però una ragazza di 27 anni, secondo lei, da che cosa può essere attratta? Nei confronti di un uomo che ha 50 anni di più. Può essere, come no? Può io essere. Avevo 12 anni, io l'ho già detto, sì. Avevo 12 anni. Sì. Quando ho visto la donna. Sì. Era una prostituta libera, non era, all'epoca c'erano le case chiuse. Sì, no? Sì. E i ragazzi per giocare mi hanno portato ragazzi di 16 anni, sì. 17 anni mi hanno portato da questa... meretrice. Quanto aveva? 50 anni. Cioè, dunque 12-50. Mi ricordo ancora l'odore della donna. E allora? Donna, non so. Capito, quella faceva la prostituta, però. Come? Quella faceva la prostituta, lo faceva, sì, per mestiere. Sì. Io le ho chiesto cosa può attrarre la signora Pascale. Io avevo 12 anni e me la ricordo ancora e sento ancora il suo odore addosso, sì, a me, sì. Una ragazzina può rimanere affascinata da un uomo maturo, un uomo di 70 anni, 76 anni. Un uomo di potere, questo anche è importante. Perché le donne amano il potere dell'uomo, il potere può essere l'intelligenza, la creatività, può essere il denaro, certo. Può essere il talento, possono essere tante cose, può essere il fisico. Cornuto! Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Cala. Mañana io sono stanco, come una muchachita. Sei ancora a casa, Simo? Questo era, e questo era dell'Utri, dell'Utri, ripescato dal nostro regista, e con noi il mitico, insuperabile Lando Buzzanca. Chi le piace nella politica di oggi, Buzzanca? Questo è proprio un pizzicone della zanzara. Eh beh, qualcuno le piacerà. Grillo? Grillo? Ma Grillo è popolare, ma è un ragazzo in gamba. Però mi piace Alfano. Alfano? Alfano. Ma come può essere affascinato da Alfano su Buzzanca? Affascinato, perché è un uomo intelligente, l'ho conosciuto, è un uomo intelligente. Ma mi piace Gasbarra, per esempio. Gasbarra chi è? Quello che si candida a sindaco di Roma? Enrico Gasbarra o Gasparri? Gasbarra, no, Enrico Gasbarra. Enrico, e come lo conosce lei, signor Gasbarra? Lo conosco quando era presidente della provincia. Ah, un uomo straordinario, molto... quasi si nasconde. Sì, ma la conosco benissimo io, Enrico. Una persona straordinaria. Concreta, dice lei, no? E che non fa aggomitate per arrivare. Non fa aggomitate. Senta, ma una grande personalità, umile, ma non nel senso arrogante, non arrogante. Ecco, non arrogante, straordinario, arriverà altissimo. Scusi un attimo, Buzzanca, ma anche lei si augura la discesa di Monti in campo, oppure non gliene frega niente, oppure pensa che sia una iattura? Non lo so, io so soltanto che adesso, infatti mi hanno intervistato su un settimanale, sì, proprio un'ora fa. Sì. Mi hanno chiesto, lei che cosa fa per questa crisi, sì, cosa faccio? Dico, innanzitutto non faccio le vacanze. Addirittura? Perché non posso permettermi le vacanze. Che le è arrivata la bastonata dell'IMU pure a lei? Sì, una bastonata incredibile sull'IMU. Quanti soldi ha pagato? È il raddoppio dell'IMU. Ma quante case ha? Vabbè, lasciamo perdere. Quante case ha? Buzzanca? No, soltanto una casa in campagna che costa 4.000 euro di UMI. Ma è ridotto così male dal punto di vista economico, Buzzanca? Amore mio, ma siamo in un momento terribile, per cui anche i produttori non rispettano le date di pagamento. Cioè lei in banca non c'ha un euro? No. Sì. No. Su San Paolo sono sotto. Sei sotto? No. Sono sotto. E poi un'altra cosa che faccio sotto in questo periodo... Sì. Da quest'estate, sì, che ogni volta che entro in una stanza accendo la luce, quando esco dalla stanza spengo la luce. Addirittura, ma scusi, ma tutta la carriera che lei ha fatto, eccetera, tutta non è rimasta la carriera, sono arrivato a questo punto. E come dopo mai? La carriera che ho fatto, tutte le cose, ma ha speso che troppi soldi, sta con le pezze al culo praticamente. Come? Sta con le pezze al culo. No, perché ho ancora la giacca di cashmere. Però, con le pezze di cashmere, dice lei. Sono con le pezze di cashmere, però sono con le pezze. Ma come mai? Ma non è riuscito a mettere soldi da parte? Io l'anno scorso, un anno e mezzo fa, le penultime tasse che ho pagato, sì, lo Stato si è preso il 65% per l'accumulo. Il 65%, sì, amici, sì, miei, siamo proprio con le pezze al culo, come diceva lei. Mamma mia, ridotto malissimo. Ma scusa, perché ha speso troppo in donne, tutte ste donne. Ma quando mai se lo può permettere l'ottimo Berlusconi, se lo può permettere. Ma lei, non quando, io, siccome, senta, tutte queste donne, va a cena, io preferisco non pagare, oppure essere pagato dalle donne. Scusi, Buzzanca, però le chiedo una cosa, ma il suo amico Fini, il suo ex amico Fini, ma ha visto che brutta fine che ha fatto dal punto di vista politico? Pare non lo voglia più nessuno, non lo vuole Montezemolo. Io l'ho abbandonato 3 anni fa. Sì, la mamma, sì, che è una donna stupenda, la mamma di Gianfranco era una, sì, donna straordinaria, mi ha detto: Lando, lo hai tradito. E invece no, ho detto: amore mio, è tuo figlio che mi ha tradito. E allora io non me la sono presa, ma ho mollato tutto. Ho mollato praticamente la politica. E adesso che fine ha fatto Fini? Non lo so, fa ancora il presidente della Camera. Eh beh, sì, certo, però insomma, fra qualche mese farà ma qualche cosa. Scusi, perché c'avevo una cosa in bocca. farà qualcosa, sì, perché lui è un uomo comunque intelligente. È dall'83 in Parlamento, però, Buzzetti. Sarebbe il caso di mollare o no? Non lo so, non lo so, però è un uomo intelligente, sì, ed è un uomo che sa gestire le emozioni. Ma non le piace? Cinico, lei dice, freddo, cinico. Sì, no, non so se è freddo, lui le emozioni le gestisce. Sì. Scusi un attimo, Buzzanca, però, ma non le piace nessuno. Per un politico, ma non le piace, sì, certo. Ma non le piace proprio nessuno. Chi voterebbe in questo momento? Nessuno. Silenzio. Non lo so, non lo so. Monti ha fatto delle cose eccezionali. Ha detto che l'ha portata alla fame, quasi. Però, sì, però, ma c'era bisogno di un intervento così, così drastico, c'era bisogno. E che ne so. Ah, c'era perché bisogno. Dice, stavamo per fallire, sì, in Europa. Beh. Però adesso, sì, adesso... Fossi io, sì, ma però non ci sono. No. Ma a sto punto basta. Adesso abbassiamo le tasse così la gente compra, sì, e l'altra gente vende. Fosse così perché facile. Perché adesso si compra poco e si vende poco, per cui si è in depressione. Fosse così facile. Caro Buzzanca, presto, arrivederci. A presto, ti detto. Fosse così facile. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Enzo da Pescara, buonasera. Enzo? Sì, buonasera dottore, buonasera. Sì. Dottore, la prima cosa, sì, come può un prete parlare in quella maniera come ha parlato prima? Me lo racconta domani, Enzo. Intanto voglio dire che, caro Parenzo, non possiamo andare stasera. Ci hanno fatto un grande invito. Un grande invito alla scuola di ballo, le coppie di fatto alla scuola di ballo, le fate ignorante dei, l'orchestra italiana Bagutti a Milano. Beh, dai, su. Tu ci vai, io purtroppo sono a Roma. No, non posso, al login a Milano. Con tutte le lesbiche, gli omosessuali. Ma sì, dovevamo fare i testimonial, anzi siamo comunque testimonial. Siamo con voi, continuate a lottare e viva l'amore in tutte le sue forme, in tutte le sue tante. E viva la legalizzazione delle coppie di fatto. Assolutamente. La Zanzara è con voi. A domani, 18:30. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, a casa, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Porca la puttana, andata a fanculo! Radio 24. La passione si sente.